Runtime Radio presenta Ludico Forum. Buongiorno carissimi amici di Runtime Radio, questa piccola intro relativa a questo episodio solo per fare un attimo un punto e spiegare un po' di che cosa si tratta, come è già successo in passato e risuccederà ulteriormente. Questo episodio di Ludico Forum è in realtà l'estratto essenziale di quello che è stata una live che abbiamo fatto insieme a Debora sul suo canale Pixel Deb. Quindi andate su YouTube, cercate Pixel Deb, iscrivetevi, attivate la campanella, guardate i video, mettete like e condivideteli, così aiutate il canale ovviamente a crescere. Abbiamo fatto una chiacchierata, insomma, diciamo cronologica, su quella che è la storia di Cinemaware, senza nessun tipo di intenzione ovviamente storiografica, ma semplicemente cercando ovviamente di raccontare questa storia secondo i nostri ricordi, le nostre emozioni, e dando ovviamente qualche informazione. Spero che questo episodio vi possa piacere, e se volete recuperare la live dove ci sono anche le immagini, ovviamente basta andare sul canale di Pixel Deb. Buon ascolto e alla prossima. Buonasera a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qui con una bella levozza, una live evento importantissima questa sera. Questa sera parleremo della Cinemaware, che è stata fondamentale per la storia dei videogiochi. Sicuramente tanti di voi la conoscono, tanti di voi avranno giocato all'epoca ai loro giochi, tanti di voi si saranno innamorati dalla qualità artistica soprattutto di questi giochi, tanti di voi li avranno fusi sia su DOS ma soprattutto sulla mitica Amiga. Questa sera in compagnia del grande, unico e solo Simone Pizzi. Buonasera Simone. Grazie. Buonasera. Grazie, applausi. Grazie. Troppo buoni, una alla volta, grazie. Autografi dopo. Esatto. Buonasera a tutti. Buonasera caro Simone, buonasera chat, intanto c'è Astolfo e Maria, buonasera cari. Quindi, perché parliamo di Cinemaware? Parliamo di Cinemaware, no, di Cinemaware per un motivo. Perché praticamente tempi fa su Telegram avevo condiviso il fatto che hanno deciso, siccome ormai è l'epoca, il momento dei remake, dei giochi che furono, hanno deciso di fare i remake di tutti i giochi della Cinemaware, iniziando proprio dal loro primo gioco, che è Defender of the Crown. E quindi parlandone così su Telegram, siccome so bene che a Simone piacciono i loro giochi, perché quando avevamo fatto la top 10 dei nostri giochi preferiti, Simone aveva messo, se non sbaglio, proprio Defender of the Crown, se non erro. Sì, non me lo ricordo, ma sì, ne sono abbastanza sicuro. Sì, doveva essere, se non sbaglio, Defender of the Crown. Allora, se l'ho messo uno dei cinema, ho messo sicuramente quello, perché c'è comunque un motivo per cui l'ho messo, quindi. Eh sì, infatti mi sembra che era quello. Quindi ho detto, ma perché non approfittare allora di questi remake che stanno per uscire, che dovrebbero uscire, prima o poi usciranno, per non parlare proprio, fare una serata, un evento sulla Cinemaware. E anche noi inizieremo questa sera da Defender of the Crown, perché è il primo titolo di Cinemaware nel lontano 86. Perché Cinemaware praticamente, stiamo parlando appunto di fine anni 80, inizi anni 90, la sua storia non è lunghissima, non è durata molto, però comunque diciamo che in questi pochi anni in cui hanno sviluppato videogiochi, ne hanno sviluppati abbastanza, insomma, giusto? Ne hanno sviluppati tanti, e diciamo ne hanno sviluppati uno all'anno per un periodo di tempo, per quasi una decina d'anni, poi fondamentalmente, forse una decina d'anni addirittura. Comunque ma anche più di uno all'anno in verità. Anche, sì, in sì. In alcuni vabbè. Casi, diciamo, quindi sono stati grandi sviluppatori sotto questo punto di vista, sono prolifici. Mediamente uno all'anno, dai, facciamo, poi dopo sì, sicuramente l'hanno fatti di più. Comunque la condivisione dello schermo è in pausa in questo momento, te lo dico per me, poi... Sì, così. Sì, adesso tu vedrai, perché adesso c'era l'immagine della copertina. Perfetto. Ma adesso passeremo a Google e quindi adesso vedrai, fammi sapere se vedi. A Google, sì, adesso è tornato tutto a posto. Più che altro vedo che stasera la chat non appare sullo schermo, mi fa piacere. Vabbè, ma sono cose che ogni tanto succedono. Sono cose che capitano. Il bello della diretta, come dicono in televisione, praticamente. No, io... Buonasera a cuciniere, buonasera, buonasera. Ciao Gianluca. No, voglio solo fare una precisazione, perché già tu da questa schermata giustamente farai riferimento ad alcune cose. E, siccome che i giochi Cinemaware poi sono stati portati in tutte le piattaforme dell'epoca, insomma negli anni 80, in realtà c'è da fare una specificazione importante, che comunque nascono tutti su Amiga 500, cioè su Amiga comunque fondamentalmente, e per Amiga. Poi sono stati trasportati su tutte le altre piattaforme, che oggi non è come portare i giochi da Xbox a PlayStation, che più o meno le architetture sono sempre quelle. Quando noi parlavamo di roba del passato, comunque parliamo che ogni computer aveva una sua logica, un suo linguaggio, una sua grafica, quindi praticamente i giochi venivano rifatti da zero ogni volta. E se voi andate a vedere le differenze di Defender of the Ground, non solo graficamente ma anche come gameplay, tra Amiga 500, Commodore 64 e PC, vedrete delle enormi differenze, perché i giochi sono giochi diversi fondamentalmente, anche se possono sembrare gli stessi giochi. Quindi non c'è un porting uno a uno come si fa oggi, insomma. Questo volevo dire, questa è una precisazione importante, perché molti mi dicono: no, perché io l'ho giocato lì, io l'ho giocato là. I giochi di Cinemaware, se volete vedere i giochi originali, li dovete giocare su Amiga, perché sono nati lì. Questo. Ma anche perché onestamente io, insomma, al di fuori che non è che sono esperta come te sulla cinema, diciamo, ieri soprattutto ho studiato soprattutto i giochi che mi mancavano all'appello, alcuni non li conoscevo, quindi sono andata proprio a studiare un attimo e ho visto la qualità, proprio la differenza fra la versione DOS e la versione Amiga, che sono veramente imparagonabili sia per quanto riguarda l'audio, cioè che sono due cose completamente differenti, ma anche video, perché il DOS non aveva quei colori, non aveva quelle sfumature, non aveva proprio quella qualità video che aveva Amiga all'epoca. E quindi, cioè, se tu guardi la versione Amiga e entri nell'ottica in cui era un gioco, ad esempio Defender of the Crown dell'86, rimani a bocca aperta, perché dici: non è possibile, questo gioco è di quest'epoca. Perché obiettivamente era, come hai detto te sempre quella sera, insomma, è quasi veramente cinema, no? Cioè era un modo quasi cinematografico, no? Un po', c'era una regia dietro, una fotografia nel raccontare quella poco di storia che c'è alla fine nei loro giochi. E però raccontato in maniera registica, ok? E c'è tutta una bellezza proprio nei colori e nell'audio, cosa che nella versione DOS è molto più basic, molto più misera. E questa sera vedremo anche qualche differenza appunto fra le due versioni. Soprattutto a me è rimasta impressa la differenza fra l'intro, perché poi questi della Cinemaware, a mio avviso, fanno delle bellissime introduzioni che durano intorno ai 2-3 minuti. E vedremo la differenza, soprattutto poi quella tra It Came From The Desert, che è uno dei giochi più famosi insieme a Defender of the Crown, per versione Amiga e per versione DOS, che sono veramente due cose imparagonabili. Quindi dopo lo vedremo bene insieme, lo commenteremo, insomma. Sì, c'è anche da dire, no, il fatto che questa differenza la vediamo proprio sul fatto che questo dimostrava quanto l'Amiga in quella fascia temporale fosse una macchina che stava sopra tutte le altre, perché comunque tu a scherma avevi 32 colori scelti da una palette dei 4000 e passa, mentre il PC, diciamo, la scheda che allora magari era per la maggiore, c'era 16 colori su 16 colori effettivi, quindi alla fine questo già demarcava, no, una differenza. Quindi tutte le sfumature, i cambi cromatici che ci stavano su Amiga, su PC non erano possibili. Poi ovviamente col passare del tempo le cose sono cambiate, però diciamo che questo è un po', e quindi succedevano delle cose su Amiga, e come dicevo a te magari fuori onda, in Defender of the Ground secondo me ci sono degli elementi, delle tecniche anche di animazione tra virgolette, ma soprattutto pittoriche, che sono stati il motivo per cui tantissima gente si è comprata l'Amiga. È stata la killer app dell'epoca, insomma. Eh sì, perché visivamente sono d'impatto, cioè nel senso, io quando ero piccola ho giocato a It Came From The Desert e mi ricordo che mi inquietava la mega formica, mi metteva proprio paura all'epoca. Vabbè, mi metteva paura pure a me la mega formica. Ma sì, pure a me faceva paura. Esatto, ti giuro, sono veramente inquietantissimo, mi cagavo proprio sotto. Però ovviamente non avendo giocato gli altri, poi essendo comunque stata piccola, magari non ho vissuto questo passo in avanti che c'è stato con questi giochi, ma anche recuperandoli a 30 e passa anni mi rendo conto che, paragonandoli al periodo in cui sono usciti e paragonandoli magari ad altri giochi che sono usciti in quel periodo, cioè sono rimasta veramente basita, ma in positivo, nel senso, perché c'ha una qualità di design stupenda, cioè hanno, penso hanno comunque spremuto abbastanza anche l'Amiga, no? Per la qualità. Eh sì, dal punto ma anche audio, ripeto, perché non, cioè fare entrare in un floppy anche tutti quegli audio, perché ci sono tanti, in ogni zona in cui tu vai nei vari giochi c'ha la sua musichina, cioè anche quello pesa, quindi farlo entrare in qualche kilobyte deve essere stato comunque un lavorone anche quello. Beh, indubbiamente diciamo che loro hanno sfruttato pixel per pixel tutta quella la qualità cioè video insomma dell'Amiga, e l'audio che era comunque un'altra diciamo feature importante insomma della macchina, insomma, quindi è ovviamente loro ci hanno giocato molto. In più, tra l'altro, poi vabbè, questo lo diremo magari dopo, hanno aggiunto delle cose che non erano così di consuetudine, tipo la digitalizzazione, le voci, cose che erano fuori di testa, insomma, diciamo così, no? Però insomma, sono cose che noi abbiamo scoperto magari col passare del tempo, perché io, per esempio, parlando proprio di It Came From The Desert, nell'introduzione c'è una voce che parla, però tu la puoi sentire solo se avevi l'espansione da un mega montata sulla macchina, perché l'Amiga c'aveva 500k poi, fondamentalmente, mezzo mega. E quindi c'erano tutte queste cose che tu scoprivi piano piano, perché l'amico ti diceva che ma tu l'hai sentito, che ma no ma tu devi andare, e allora andavi, convincevi i genitori, no, mi serve questa espansione importantissima per studiare naturalmente, per studiare è fondamentale, per proprio studiare l'espansione audio, esatto. E c'è da dire che comunque, per quanto sia ovviamente una voce tendente al metallico e molto distorta, no, per farla entrare là dentro. Beh, certo. Sempre in quei pochi kilobyte, però si capisce quello che dice, cioè si capisce benissimo cosa sta dicendo. Anche questo è stato molto interessante, insomma, riscoprire anche questa cosa. Sì, considera che io su Amiga mi regalarono i miei amici per un compleanno un digitalizzatore audio, e che tu attaccavi, cioè, ovviamente ci potevi anche, che ne so, pezzettini dei CD, che veniva utilizzato soprattutto per i programmi di musica, no? Cioè, nel senso, quelli che cui facevi ovviamente tutte le varie remix che potevi fare, insomma, con l'Amiga, e quindi potevi prendere dei brani o dei suoni da, che ne so, da un CD e via dicendo, e arrivava al massimo campionamento che arriviamo oggi, però chiaramente per un secondo, due secondi, no? Perché chiaramente lì è un problema di memoria, non è un problema di potenzialità. E quindi per far entrare una frase dentro un dischetto, la frase era super compressa, quindi la sentivi tutta un po' così. Però, come dici te, si capiva, insomma. Poi a noi non ci fregava. Per quanto metallica, esatto. No? Un po' l'effetto un po' metallico, però si capisce, insomma. The Desert, quelle di It Came From The Desert, fa The Desert. Sì, perché il T e le S ovviamente venivano sacrificate in buon nome della memoria, anche perché a noi quello che ci fregava era l'effetto, cioè, cavolo, senti che roba, è una cosa incredibile, no? Cioè, non ci sembrava vero, quindi a noi non è che stavamo lì a fare i sopraffini, oddio, che schifo la compressione, capito? Cioè, sti cazzo. No, infatti. Comunque, intanto buonasera anche a Franky. Astolfo dice li ha giocati tutti su Amiga 500, i giochi della Cinemaware. Ma io Astolfo, dice anche a me metteva paura la colonna sonora di, penso, di It Came From The Desert, insomma. Invece Mattia fa un elenco dei grandi sviluppatori dell'epoca, quindi mette Cinemaware, mette Psygnosis, Bitmap Brothers, Delphin, Team 17, Bullfrog, DMA, e chi più ne ha più ne metta, insomma. Quindi grandissimi sviluppatori, insomma, con grandi anche Psygnosis, grandi musiche sempre anche Bitmap, sì. Brothers. Guarda, io faccio sto raccontino breve, poi dopo evito perché sennò poi non usciamo più vivi da sta cosa, però voglio raccontare quando ho comprato io l'Amiga, perché l'Amiga io l'ho comprato ad importazione parallela in un sottoscala di uno scantinato di un tizio che importava sta roba non si sa come, non si sa dove, no? Beh, a Roma e a Milano queste cose erano frequenti, perché ancora magari certi computer non arrivavano così frequentemente nei negozi. E non è che lui faceva una cosa illegale, era legale, soltanto che c'era proprio questo sapore di cantina, capito? Che di garage, capito? Cioè, che era questo una cosa... sapore, dai, con un retrogusto di losco. Di losco, esatto. E infatti mio padre, quando venne con me a comprare ovviamente questa, gli dice, ma dove hai portato? Magari... Però poi alla fine lui, questo tizio, cioè, aveva una marea di amica... montati che li stava praticamente testando e poi li rimpacchettava e li vendeva alle persone, no? E c'era un'animazione su una schermata che ancora me lo ricordo, che era l'introduzione di un gioco che della Silmaril, che era un gioco francese. Il gioco di per sé faceva schifo, non mi ricordo neanche come, però c'era questa introduzione con queste sfumature di viola che si inseguivano nella scritta. E la frase, no? Silmaril present, capito, così, no? E io sono rimasto così, dico, cioè, no, capito? Ma, cioè, era, per me era fantascienza. Noi venivamo dal Commodore 64, capito? Cioè, ci trovavamo di fronte a questa cosa che era fantascienza, insomma. Quindi eravamo tutti folgorati. E quel tipo di emozione è stato il motivo per cui, secondo me, tantissima gente all'epoca e ancora oggi sono affezionati all'amica, perché l'amica ti ha dato quella meraviglia che oggi magari scoprite meno, cioè nel senso, giustamente siamo più abituati a vedere tante cose iper fantascientifiche, no, da questo punto di vista. E quindi niente, io ho comprato una mia 500, lo sgattinato losco del tizio, però ha sempre funzionato, insomma, quindi. No, io dico sempre, l'amica è il mio grande amore, dovrò essere seppellita insieme alla mia amica, esatto. Insomma, quindi la porterò nella tomba, esatto. Proprio così, perché è il mio vero grande amore di sempre. Ma io ho iniziato la mia passione per i videogiochi proprio su Amiga, quindi non ho fatto questo passo da Commodore ad Amiga, quindi io ho iniziato a vedere i videogiochi versione Amiga praticamente, nella mia vita. Sì, sì. Quindi mi manca questo meravigliarsi, no? Di passare da un Commodore 64 all'Amiga. Quindi mi manca un po' questa cosa della meraviglia. Però il feedback, già all'epoca mi meravigliavo uguale così. No, appunto, però il feedback che sicuramente hai ricevuto è una cosa alla quale sei rimasta comunque legata, perché ancora oggi tu giustamente dici, comunque è un punto per me importante nella mia memoria, no? Tra l'altro poi ti faccio un'interrogazione, cioè faccio una domanda, ma è la mia amica o il mio amica? Tu mi avevi bacchettato, perché io dico l'amica in femminile, invece mi avevi detto è il computer, quindi è esatto. Il... Esattamente, in italiano sarebbe così, poi se fosse, dato che comunque siamo abituati a ragionare più in termini inglesi, che in realtà non c'è il genere, no, in un computer, insomma, quindi non sarebbe, però sarebbe sì, sarebbe comunque il maschile. Sì, ma io bacchettato tempi fa questa cosa, addirittura tutta la vita che io dico amica come fosse femmina. va bene, dai. Dico sempre la mia amica, non dico il mio amica, no, non mi esce, abitudine. Comunque ti chiedono dalla chat se era Ishar il gioco, che credo. Dice, no. Mattia chiede Ishar e Astolfo dice Ishar molto bello. No, non era Ishar. Pensa che mi era venuto in mente prima il titolo, infatti l'avrei voluto dire. Però poi me lo sono dimenticato. Se tu ricordi, poi sì, ma tanto poi anche chi se ne frega. Comunque, giustamente quello che dicevi te, perché si chiama Cinemaware? Cioè, si chiama Cinemaware proprio perché loro avevano proprio questa esplicita ambizione, che era quella di dare un senso cinematografico ai videogiochi, perché già allora si ragionava da sto punto di vista, cioè qualcuno che vedeva questo tipo di potenzialità in un connubio tra videogiochi e cinema, insomma, Defender of the Crown secondo me ci ha steso a tutti, anche se il gioco era a me, cioè lo posso dire Allora, c'è da dire che io ieri li ho visti tutti proprio, e c'è da dire che ho pensato, wow, belli visivamente, audio, però come gameplay sì, mi sembravano un po' tutti un po' una cazzatina. Poi ripeto, non è che li ho giocati tutti, però sì, diciamo il gameplay è un po' misero in generale e sembrano tutti formati da minigiochi, sì. Come dicevo prima a Simone in privato, cioè praticamente cambia l'ambientazione, quindi una volta è spaziale, una volta stiamo nel medioevo, una volta stiamo in Giappone in mezzo ai formiche giganti, una volta stiamo con Sinbad e company. Però alla fine il deke è tre minigiochi in croce e qualche immagine audio stupendo. Questo, diciamo, sono i giochi più o meno da CinemaWare. Sì, quelli che venivano chiamati giochi multievento, perché su Commodore 64 andavano tanto. Però ovviamente i giochi multievento di per sé erano penalizzati proprio dal fatto di essere multievento. Cioè molti dicono, per esempio, si ricorda tantissimo il gioco dei Ghostbusters, ah bellissimo, bellissimo. Ma in realtà il gameplay dei Ghostbusters per Commodore 64 fa schifo, cioè perché? Perché anche quello è un gioco spezzettato, sono multieventi, quindi se tu ti concentri a programmare su mille cose diverse, alla fine non te ne viene bene fuori nessuna, no? E CinemaWare da questo punto di vista dimostra un dilettantismo dal punto di vista della concezione, del design, dello sviluppo proprio in termini proprio di sviluppo, tanto quanto invece un capolavoro e una maestria senza confronto dal punto di vista grafico, che secondo me e poi vedremo che alcuni giochi sono veramente simili, soltanto trasportati in un altro posto, soprattutto i primi due. Cioè, una cosa sì, che ho detto, cambia un po' la location, il periodo storico volendo, oppure da cose realistiche a cose fantascientifiche, fantascemenza più che altro. E, però tanti minigiochi alla fine, così, vabbè, senza insomma smontarli, rimango più affascinata da... dal punto di vista artistico che dal gameplay, onestamente, di questi giochi. Beh, perché è tutto lì, dai, comunque. Per ciò nonostante, CinemaWare è stata la prima software house che ha attirato grossi capitali a un certo punto, fino al fallimento. Perché comunque, alla fine, per sviluppare tanta roba e con tanta qualità, e poi vedremo che la qualità non sarà sempre alla stessa altezza, ci saranno degli alti e dei bassi, insomma, diciamo, dal punto di vista insomma produttivo, anche dal punto di vista grafico, e è ovvio che insomma alla fine l'industria del videogioco in quel momento stava cambiando, no? Stava diventando un po' più capitalistica da un certo punto di vista, e lì si vede la differenza tra l'Europa e gli Stati Uniti, dove gli Stati Uniti se ne sono andati proprio per conto loro, e noi siamo rimasti un po' così, con le pezze al culo, insomma, diciamo così. Comunque Mattia dice che il suo primo vero amore è stato il Commodore 64. E poi dice, no, si facevano il mazzo, il gameplay era sempre diverso di gioco in gioco, forse non erano molto ben fatti, ma cambiavano sempre, guarda adesso che fanno sempre gli stessi pattern di gameplay. Beh, adesso lo vediamo, quindi, che in realtà non è... Quindi adesso lo vediamo, esatto. Lo vediamo adesso. E quindi partiamo dal loro primo gioco, che dicevamo che è Defender of the Crown, che sicuramente uno dei giochi più famosi loro, insomma, se uno all'epoca ha avuto un'Amiga, sicuramente è uno di quei titoli che un po' tutti conoscevamo. Io lo conoscevo non avendolo però su Amiga, non l'avevo mai giocato, poi l'avevo un po' recuperato anni dopo, ma tanto per curiosità, insomma, perché appunto è famoso come gioco, e però non è che ci ho mai giocato proprio seriamente, quindi diciamo mi ero un po' più impicciata, perché comunque è uno di quei titoli che hanno fatto la storia su Amiga, e sicuramente, quindi... E almeno da impicciarsi, secondo me è giusto, insomma, perché è un titolo importante. Invece tu l'hai giocato proprio, Simone, vero? Defender, sì, sì. L'ho giocato, l'ho finito, e tra l'altro non solo l'ho giocato e l'ho finito più volte, ovviamente, ma è un gioco che dopo che hai capito il meccanismo lo finisci 4-4-8, insomma, diciamo. Quindi sì, è vero che si sono sbattuti a fare tantissimi tipi di giochi diversi, però è vero pure che purtroppo qui, cioè, non possiamo confrontarci con quelli che facevano i giochi sul serio, ecco, diciamo così. E Defender of the Crown è figo perché, allora, innanzitutto c'è questa introduzione, quella scritta con le sfumature che cambiano colore, no? Sfumature dorate, che tra l'altro era una tecnica proprio specifica di Amiga, la utilizzavo anche io con Deluxe Paint, facendo alcune scritte che cambiavano colore, si sfumavano e via dicendo, dopo che avevo imparato sta cosa. Ed è un gioco strategico, è tipo Risico praticamente, poi alla fine se vai a vedere, tu c'hai dei cavalieri e dei soldati, li devi spostare a secondo dei confini che c'hai con gli altri stati, e conquisti gli altri stati fino a conquistare tutta l'Inghilterra. La storia è quella del periodo della riunificazione, diciamo così, della pacificazione dell'Inghilterra tramite la riconquista del trono e una unificazione di tutto quanto il regno. c'è sta Robin Hood, come tu sai bene, ci stanno i complotti, ci stanno tutta una serie di piccole situazioni che sono anche interessanti fra di loro, ma alla fine influenzano fino a un certo punto il gameplay. Tu comunque quello che devi fare è conquistare tutta l'Inghilterra e conquistare anche la donzella che sta sulla torre rinchiusa, fino a che tu vai lì, lei si spoglia e arrivederci, grazie, insomma, perché questo che l'obiettivo di tutti voi maschietti dell'epoca era vedere il momento in cui lei un po' si spogliava. Sì, che poi lei si vede in silhouette che lei praticamente fa calare il vestito e le spalle, quindi ciao. Però si vede quando loro sono uno di fronte all'altro, diciamo, si vede che alla fine tutti già si accontentavano di quello. All'epoca già eri contento con quello, contento, diciamo, sì. Che conquistare tutti i vari luoghi, insomma, i vari staterelli, i vari territori, valeva la pena per vedere un po' con la luce del camino in controluce, esatto, questa, esatto, qui che si toglieva, esatto, la veste, esatto, di dosso, insomma, valeva già tutto quello. Però quando loro erano una fronte all'altro vedevi che lei era, insomma, era abbastanza dotata, insomma, quindi alla fine eri contento, era rombosa, e quindi, esatto, eri contento, insomma. E niente, praticamente gli scontri erano più matematici, nel senso, per vedere se avevi preso o non preso la nazione che ti stava accanto. Poi c'erano altri eventi che erano quello della conquista del castello, quindi che tu con la catapulta rompevi le mura del castello, e quella era l'immagine più bella in assoluto, cioè quella secondo me è stata l'immagine che ha fatto cascare la mascella a tutti quanti, l'inquadratura del castello. Che è questa praticamente, eccola qua. Che è questa qua, esatto. E voi dovete sempre contestualizzare su un monitor CRT, ovviamente, abituati ovviamente a una definizione, a una grafica completamente diversa che era quella del Commodore 64, sta roba faceva spaccare proprio. Poi conquistavi il castello con i tizi che facevano spadacciate, tra l'altro finezza tecnica. Chi sono questi qua invece? Esatto, finezza tecnica nella seconda inquadratura, quella dentro, quando sei entrato proprio dentro le stanze, cioè le scale, roba del genere, si vede anche l'ombra dei spadaccini che combattono, quella è una finezza è tecnica. È questa, vedi, guarda quanto sono sul pezzo. Ma chi sei? Aspetta, però questa è una versione remastered, questa è già una remastered, perché sì, l'hanno già fatta in verità. Sì, però avevano fatto anche una collection nel 2014 che era disponibile su Steam, adesso sì, non è più, non si può più comprare, non lo so perché. Sì, sì, vabbè, questa... Però diciamo che comunque c'era già una sorta di collection del gioco all'epoca. Sì, questa, cioè, tanti anni fa. Non è amica questa. Questa è sicuramente una remastered, come dici te, però in quella stessa, sì, remastered, nella stessa inquadratura si vedono sti due, che cioè sti tre, perché poi sono tre da una parte e tre dall'altra, e si vede praticamente l'ombra, e poi vabbè, vai su dalla principessa. Un altro evento era quello del torneo, che io non ho mai capito come funzionasse, eppure vincevo uguale, perché quindi non sono l'unica, perché ieri ho provato a fare la giostra. No, mai capito. E non capivo. No, non l'ho mai capito. E quindi era un po' a culo. Cioè, nel senso, a volte vincevi, a volte perdevi. E influenzava molto la tua campagna in generale, perché vincevi i soldi, dico, sulle cose. E poi che altro c'era? Mi pare basta, insomma. Ah, e poi andavi da come si chiama lì, la foresta di Sherwood lì, da Robin Hood. Non mi veniva Robin Hood, ovviamente se eri in difficoltà e lui ti prestava degli uomini, diciamo così. E poi c'erano a volte delle cospirazioni, quindi c'era questa inquadratura di questi qua seduti al tavolo con i coltelli e tutti sghignazzavano, che faceva per complotto tipo loggia praticamente. E il gioco era finito. Eccolo qui, Robin Hood. Che poi, esatto, qui praticamente in questa versione Amiga si vede bene tutto il viso di Robin Hood. Nella versione DOS neanche si vede, perché è tutto tendente un po' più al buio, no? Poi avendo meno colori, come dicevi te, non c'erano queste sfumature, eccetera. Quindi non si capiva bene che era Robin Hood. Invece versione Amiga si capisce già di più che obiettivamente è lui. Quindi. E anche il territorio, ad esempio, c'è una grandissima differenza. Versione Amiga è tutto verde, molto bello qua. Queste sfumature anche, no? Esatto. Cose che su DOS manco per il cavolo. No, no, non esiste. Quindi c'è proprio una qualità, una differenza abissale proprio. E poi quando... Al di fuori, che ripeto, l'Amiga è nel mio cuore, ma obiettivamente parlando è proprio così. No, no, ma cioè, è indiscutibile che è così, è un fatto storico, e viene riconosciuto per il fatto che comunque loro sono quelli che hanno portato il successo a Amiga per certi versi. E poi vabbè, il gioco finiva abbastanza velocemente, e c'era questo scenario, praticamente questo tramonto bellissimo con i fiumi, i laghi, cose, insomma, sto panorama bellissimo con la scritta sempre dorata e via, via, viva il re, viva il re. Siamo tutti felici e contenti e basta, cioè finiva così, e ci rimanevi un po' male perché dici ma cosa, tanto sto sbatti perché cosa, e niente, comunque poi però c'è da dire che è interessante anche il fatto che all'inizio puoi scegliere anche il cavaliere, no? Quindi puoi scegliere, ad esempio qua abbiamo Ivan, Wilfred of Ivanhoe, no? Sì. E ti dice che, non so, vedi, leadership è buono, buono, quindi potevi scegliere tipo caotico buono, sai, tipo un po' alla, no, alla Dungeons and Dragons, no? No, diciamo che avevano, quindi a seconda del cavaliere, sì, che sceglievi, ieri ho visto, insomma, vedi, questo ad esempio è forte, è buono, però è debole magari nella spada, vedi? E quindi sceglievi il cavaliere che più ti piaceva, quindi anche questa cosa comunque era carina, da. Sì, diciamo che avevano delle perk, delle caratteristiche, cioè nel senso uno era più bravo in una cosa più in un'altra, però devo dire la verità, oggettivamente, cioè concettualmente è un gioco strategico a turni come ce ne sono stati a milioni, e il problema è che era proprio basico, proprio basico, dopo che avevi capito il meccanismo, perché la gente... cioè noi abbiamo avuto una grossa difficoltà con i giochi cinema war in generale in Italia, perché la penetrazione dell'inglese è sempre stata quello che è stata, insomma, no? E a maggior ragione negli anni 80, quindi se non capivi, insomma, quello che vedevi, quello che leggevi, diciamo che poi sostanzialmente capivi relativamente. Però dopo che tu avevi capito che c'avevi dei cavalieri e dei soldati e dei fanti, diciamo così, e li spostavi a secondo dei quanti ce n'aveva, perché se ne so, il territorio vicino c'era un cavaliere e 15 soldati, tu bastavi mettevi due cavalieri e 20 soldati, diciamo, in buona sostanza hai vinto, insomma, cioè, quindi diciamo il gioco era molto molto basico sempre. Peccato, però ci ha fatto sognare tanto, perché audio e video veramente fuori scala, insomma, mascella per terra. Adesso infatti ci guarderemo un po' l'introduzione di Defender of the Crown. Frankie dice: Defender of the Crown è stato il mio primo gioco in assoluto sul mio Olivetti M24. No, poveraccio, mi dispiace. Dice: mi dispiace per lui. Esatto. Ed è arrivato Simone, l'altro. Buonasera Simone, stasera serata evento Cinema War insieme a Simone Pizzi. Quindi direi di vederci un attimo l'introduzione di Defender of the Crown. Yes. Ecco la cosa della luce che dicevi, no, nella scritta. Sì. Beh, questa poi sembra una stupidaggine, ma in realtà era comunque, anche questa era una bella feature, sempre che comunque sosteneva con i computer Amiga, proprio perché avendoci una palette di colori molto ampia potevi cambiare le sfumature, insomma. E vabbè, quindi una cosa che all'epoca era tanto, no? Beh, era una novità, perché comunque fino allora i computer ci avevano 16 colori, fondamentalmente, appunto, come ho detto, 16 colori da una palette totale di 16 colori. Qui c'avevi 32 colori da una palette di 4000 e passa, quindi proprio cambiava proprio, però vedete proprio lo stile dell'introduzione è proprio quella di, insomma, da assomigliare a un film. Ecco, vedi, qui scegli il tuo cavaliere, no? Ecco, considera, io sceglievo sempre quello in basso a sinistra, perché mi ricordava, mo ti dico, Geoffrey Longsword. Sì, mi ricordava quello dei Tre Cuori in Affitto, là, come si chiamava, quello là, che lui stava con le due ragazze. Sì, mi sa che ho capito. Il telefilm, sì. Non so, mi ricordava. Vedi, lui. E subito inizi nella foresta di Sherwood e vai, insomma, da Robin. Guarda, ti faccio notare anche il fuoco. Se tu vedi pure il fuoco, che è sembra bello, animato, ma in realtà non è animato. Cioè il fuoco è statico, ma usa la stessa tecnica della scritta. Quindi sono le sfumature dei colori che ruotano praticamente. Quindi dà la sensazione di un fuoco animato. Quindi, cioè, sono piccole chicche che CinemaWare ha tirato fuori da lì, insomma, ovviamente aprendo strada poi da questo punto di vista. E ma sono stati innovativi, sono stati geniali, no? Ohia, vedi che e questo è il gioco poi, cioè nel senso, c'è uno che il gioco è questo, ecco, insomma, hai scelto i tuoi cavalieri, ti hanno detto, Robin Hood ti ha detto dai, andiamo, fammi i culi. Sì, sì, sì. E inizia che fa subito la giostra. Questa poi è la giostra. Ah, ma voi guardate, cioè, guardate la giostra, guardate il pubblico. Cioè, siamo il pubblico che è tutto differente, mica sono tutti uguali. Capito? Cioè, ognuno col suo abito, colori differenti. Voi immaginate quanto tempo ci hanno messo a fare sta cosa? Cioè, penso abbastanza, onestamente. Ma guardate i colori, cioè, ragazzi, ma una cosa bellissimo, cioè io mi emoziono ancora oggi a rivederlo, a pensare come mi sono emozionato quando l'ho visto la prima volta su a casa mia, per cazzi miei, cioè una cosa bellissima. Ecco, poi c'è il momento in cui si preparano per la giostra e poi non si capisce come si fa. No, però mi fa piacere che manco tu se fa. No, ma io penso che in tanti, mo adesso qualcuno ci dirà, no, se faceva così. Che poi se tu la vedi, poi sta cosa è fatta pure bene. Cioè, nel senso, come animazione, rispetto a tante altre cose che vedremo dopo delle CinemaWare, cioè questa cosa è fatta pure bene. Vabbè, comunque questo... Beh, molto bello. Il pezzo della giostra, secondo me, è veramente molto bello. Tutti questi colori, poi. Bello, ma poi visto come cambia proprio la fotografia, no? Mo si vede così, poi mo si vede da lontano, poi si vede in prima persona. Cioè, capisci? So piccole cose, no? Che però se tu ci pensi, dici, minchia. Cioè, c'è stata anche una scelta... Cioè, un ragionamento fotografico veramente quasi da cinema, no? Vedi adesso in prima persona così, poi vedi quando il tuo cavaliere cade da cavallo, però lo vedi poi in terza persona, capito? Cioè, che non so, sono piccole cose che secondo me però rendono bene, capito? Sì, diciamo, la scena. L'alternanza di piani medi o ravvicinati con piani lunghi e lunghissimi è tipico, insomma, del linguaggio cinematografico, quindi alla fine... Era voluta, giustamente, e questo sono riusciti benissimo a fare sta cosa, insomma. E però se noi invece lo consideriamo, queste sono una, due, tre, quattro schermate diverse, quindi significa lavorare su quattro schermate, che all'epoca non era così scontato averci quattro schermate soltanto per una sessione, capito? Perché questa è una sessione del gioco, insomma. Ah beh, sì, potevano far vedere i cavalli da lontano che si sfidavano. Esatto, fine, come facevano tutti, no? Che poi alla fine quello... Sì. Sì. Lo vedevi praticamente in orizzontale, tu li vedevi entrambi da lontano che andavano, uno che veniva da sinistra, uno da destra, e si sfidavano fino a che uno cadeva e basta. Invece, capito, questa scelta registica, prima in lontananza, poi in primo piano, poi in soggettiva, poi da lontani, quindi... Sì. Ecco, qui invece decidi, insomma, che utilizzare i soldati, i cavalieri, eccetera, per andare a conquistare i vari territori, no? Esatto. Allora, all'inizio... Comunque, intanto, aspetta, Frankie diceva Jack Ripper, che si chiamava così, quello dei tre cuori in affitto, come... No, non me lo ricordo come si chiamava. Certo, si chiamava Jack Ripper, poraccio. Jack the Ripper, esatto, capito, cioè. Quello con Christopher Walken. Un po' inquietante. Poi Mattia dice a livello artistico erano mostruosi e sono d'accordo. E Frankie dice Defender era il AAA di quei tempi. Sì. Cioè, obiettivamente sì. Più che il AAA era, secondo me, era proprio la killer application, cioè nel senso che comunque la gente si è comprata l'Amiga, ma anche veramente per sto gioco, insomma. Per vedere fino a che livello arrivava l'Amiga? Eh sì, dai, era una demo. È come, cioè, nel senso. Sì, era demo, sì. È demo tech, come? Tech demo. La giostra, io cercavo sempre di puntare il centro dello scudo, ma anzi che tu sei riuscito a puntare, io ieri non riuscivo a fare niente, non ho capito se la versione DOS non puntava, boh, non ho capito. Beh, tanto funzionava tutto col mouse, no? Quindi tu col mouse dovevi indirizzare la tua asta. Ma... Però ti giuro non ci riuscivo a fare niente, dico vabbè, muoio, pazienza. E Mattia dice anche oggi negli indie una pulizia, dettagli e stile da pixel art non è facile trovarla di questo livello. No. Sì, anche lì dipende, insomma, da alcuni sono proprio pixel art proprio veramente, altri no, quindi cioè, questo per l'epoca sì, a voglia, altri... veramente artistico sto gioco al 100%. Alcuni sono pixelosi e alcuni sono pixel art, secondo me c'è proprio, esatto, perché comunque abbiamo visto dei giochi in pixel con animazioni e qualità. Ecco, ora c'è sta il pezzo. No. Infatti, ecco qua. Ecco qui. Okay. Che viene tutto spiegato. Che pure si inquadra qua, no? Qua, cioè, senza... Abbiamo visto la giostra, adesso abbiamo visto quando entrano nel castello, esatto, e combattono. Ecco qua, vedi come dicevi te, no? Tutte le luci. Guarda che bello l'effetto della luce. Esatto. Che illumina lì la scala, la parte lì. Le parti più scure e poi le parti illuminate dalla luna, no? E nella sequenza dopo, quando loro entrano poi dopo, c'è proprio un movimento in cui si vede proprio sul muro grande l'ombra di quelli che combattono, che, devo dire la verità, anche superflua, cioè allora nessuno si sarebbe messo a fare una follia del genere, perché comunque, guarda qua, ci dovrebbe essere a un certo punto. Eccola l'ombra, eccolo. Ecco, vedi. Oh, ragazzi, è tanta roba. sembra una stupidaggine. Oggi, cioè, i motori grafici lo fanno per conto loro sta roba, invece questo lo dovevi ridisegnare, rianimare a mano, quindi insomma c'era tutto un lavoro dietro, bello bello. E qui poi penso che vai su dalla signorina, immagino. signorina. Beh, dice Astolfo, dice sì, la killer application per Amiga. E Mattia dice la killer application per Amiga per me fu Obliterator di Psygnosis. Non lo conosco Obliterator, non so se tu lo conosci. No, lo solo con, cioè nel senso conosco il titolo, ma non adesso, cioè io messo non ci ho mai giocato, però no, io onestamente questo mi manca, così almeno così col nome non mi viene in mente. Astolfo dice però a quei tempi non c'erano molti strategici, no? Beh, stiamo parlando di 86 87, boh, non credo. Guarda, non m'azzarderei a fare un'affermazione del genere, mi documento un attimo, magari ne parliamo in chat, insomma, però non credo, sicuramente non ce n'erano tantissimi, ma c'erano, questo da sicuro. Di qualcosa c'era, magari non fatto così bene, però c'è. Sì, fatto così bene graficamente, ma fatto così male come gameplay, insomma, perché poi ho detto, gioco veramente dopo che hai capito in mezz'ora l'hai finito, cioè. Dice anche basta poi, no? Certo. Eh sì, no ma poi lo finisce. Comunque Jack Tripper si chiamava. Ah, Tripper, bravo, sì, è vero, c'è Jack Tripper, sì, può essere. Interpretato sì. Da John Ritter. Vabbè. Quindi è stato un mix tra Ripper, Ritter, sì, ricordo Ripper. Che lui doveva far finta di essere gay perché sennò il padrone di casa non gli permetteva di stare in affitto con le due ragazze, insomma. È una carina come serie, molto carina. È arrivato Saladriel, buonasera Saladriel. Obliterator, la versione fantascientifica di Barbarian. Ah, Barbarian c'ho presente, mamma, ma Obliterator mia. Onestamente no. Ah, Barbarian, raga, era veramente un'altra killer app per Amiga, perché grafica stratosferica proprio. Ah, no, aspetta, scusa, ho trovato il momento in cui c'è la donnina. Cioè, il momento che stavate tutti aspettando, lo so bene che è questo. Esatto. Perché il momento in cui, dopo la fatica, c'è un attimo di gioia. Esatto, lo dice anche il detto stesso, tutto sommato. Eccolo qui. Oh, vedi. Tra l'altro c'è una bandiera con la sua musichina, poi sentite. C'è la bandiera della Danimarca sopra, non capisco perché, però vabbè. E poi, insomma, lei non è. Vedi, guarda lo sguardo, come lo alza, come lo abbassa, un sì. Po' ritrosa, no? Sì, ma guarda le sfumature. Un po' vergognosa, l'ombra, perché è l'ombra. Beh, la manina di lei va in parti basse, direi. Proprio perché noi usiamo l'ombra perché vogliamo essere eleganti, però fino a un certo punto, giustamente. E da qui in poi. Però diciamo che quell'ombra, quella manina bassa e quella protuberanza. Abbiamo capito. Diciamo, ci faceva capire che esatto. Succedevano cose. E da qui lei è sempre a fianco al personaggio. Quindi questa e infatti vedi, anche andando avanti vedo che sta appare sì. La capoccetta di Catherine, diciamo. Esatto. Appare sempre la capoccetta di Catherine, sì. Però diciamo il gioco è qui, cioè sono queste tre cose che abbiamo visto. Sì, sì. No, diciamo più che l'assalto finale che dicevamo prima, che mo ci arrivo. Eccolo, perché praticamente prima dell'assalto finale riparla con Robin Hood e gli chiede come sta andando, come non sta andando, e poi eccolo qua. E c'è l'assalto finale che è molto bello da vedere. Eh sì. Che poi vabbè. Ho detto guarda, cioè se voi guardate il prato, o sembra una stupidaggine, no? Però guardate quante sfumature e quanti tipi di verde ci sono diversi, no? 50 sfumature di verde. 50 sfumature di verde. Ma sto verde, lo volevamo sfumare o non volevamo sfumare? Lo volevamo sfumare sto verde. Vabbè, il castello, dai ragazzi, oh, ma è una roba potente questa. Infatti vedete. Ma che vi ripeto, ogni cosa ha la sua musica, sono pure belle. Sì, sì. Che non è scontata, secondo me, come cosa. Bello, bello, sì. E, poi molto inglese, diceva Saladriel, lei era molto inglese. Sì. Simone è contento che si galoppava, perché Simone è sempre zozzo. E poi è arrivato Alessio. Buonasera Alessio, come stai? Da tantissimo non ci si becca, infatti. Finalmente riesco a seguirti in live e ci segui in questa live evento della Cinemaware insieme al mitico Simone Pizzi. E ovviamente stiamo ancora al primo gioco, ecco, perché qua, ne chiacchieriamo poco. Vedi il finale che ti dicevo io, che è quello del tutto lo scenario. La scritta di prima, praticamente, esatto. La scritta iniziale, no? Esatto. Quindi alla fine c'è così, sto panorama bello che ti fa capire che sei diventato il re dell'Inghilterra unificata. E quindi insomma, poi ambientato nel 1100, quel basso medioevo inglese, quindi sa, fine. Non soltanto dell'Inghilterra unificata, ma hai pure conquistato pure la bella de turno. La gioia, certo. È stata una grande vittoria in tutti i sensi. Robin Hood è stato amico tuo, cioè, ma io di così. Potevi pure flexare, insomma, l'amicizia. E vabbè, questo insomma era Defender of the Crown, un gioco che ci ha chiuso tanto, perché secondo me non solo è stato il debutto di Cinemaware, però secondo me è stato appunto il gioco che ha fatto comprare tanti Amiga a tante famiglie, perché devono studiare ovviamente, naturalmente, perché insomma, la scusa sì, per studiare, soprattutto ripeto, la cosa dell'audio aggiuntiva era fondamentale. esatto. Quindi andando nei giochi loro c'è SDI, il secondo, che è sempre dell'86, che è SDI Strategic Defense Initiative, capisci? Allora, noi andiamo in roba spaziale, quindi vedete come si passa dal medioevo allo spazio, cioè capisci quanto spazio hanno in tutti i sensi, però. Ma guarda, secondo me loro hanno fatto una cosa interessante da questo punto di vista, cioè loro hanno preso Defender of the Crown e dice vabbè, il medioevo ci siamo stati e adesso andiamo nel futuro, andiamo un po' nel futuro. Anche se devo dire che allora il gioco, oddio, è difficile, non posso dire che è brutto il gioco, però anche qui stiamo sempre parlando dei soliti multi evento dei Cinemaware, dove praticamente nel 2017, quindi qualche anno fa, insomma, pensa, ambientato in qualche anno fa, in un futuro alternativo dove l'URSS non è crollata, praticamente c'è questa minaccia nucleare per colpa di alcuni terroristi russi e ovviamente tu sei l'eroe di questa, insomma, agenzia spaziale che deve riuscire a risolvere la minaccia andando praticamente nella base, cioè nella base di questi terroristi russi, e cercando di ovviamente di evitare il conflitto nucleare, anzi no, neanche evitare, perché quelli poi le lanciano proprio le bombe. E qui i giochi multievento sono particolari, perché allora devi, prima di tutto devi, oddio, è difficile pure spiegarlo, cioè tu devi sparare i missili in un modo veramente brutto, fatto proprio brutto, eccolo qua, esatto. No, questo è il combattimento spaziale, ok? No, perdonami. Ok, questo è il combattimento spaziale. Tu, cioè, la prima cosa è il combattimento spaziale. Mi sa che ho visto ieri. Allora. C'era la cartina, brava, praticamente, esatto. Tu decidevi dove mandare i missili. Ok, però dopo c'è un'altra immagine dove tu c'hai sempre l'immagine del pianeta così, con i missili che arrivano, e sotto, nella parte sotto, c'hai praticamente un riquadro dove c'è questo missile che fa su e giù e va da destra a sinistra. E dopo che lui fa su e giù, tu gli devi sparare cercando di centrarlo, e se lo centri l'hai ammazzato. Ma è una cosa brutta, fatta proprio male, cioè se la facevo io in basic, una cosa proprio brutta insomma. E quindi questo c'è l'evento spaziale, che era figo perché era il primo, cioè il combattimento quello fatto in grafica vettoriale, in 3D, chiamiamolo così, diciamo era un 3D in effetti. Poi c'era questa cosa che tu dovevi sparare i missili nucleari, poi fino a che a un certo punto tu arrivavi nella base nemica e c'era una sorta di first person shooter, però molto statico, cioè nel senso che c'è questa inquadratura ferma con delle porte in questo corridoio di questa base spaziale, dove da una porta esce uno e tu devi andare col cursore, devi cliccare e lo spari, dall'altra porta esce l'altro, tu devi rispostare il cursore, spari e lo ammazzi, e così 3-4 volte fino a che ovviamente non arrivi al centro di comando, dove, cara Deborah, incredibile, tu adesso dirai incredibile ma vero, c'è una tipa che ti sta aspettando, esattamente come su Defender of the Crown. Cioè, è una cosa. È la prima immagine che avevo messo, perché praticamente la scena di prima, ma invece di avere come sfondo un castello, c'è direttamente il pianeta. Esatto. Anche se questa già è un po' più zinnona di quella di prima, insomma, diciamo così. Però è incredibile perché veramente riprendono lo stesso tipo di concetto. Però devo dire che sto gioco pure ha avuto abbastanza successo, perché oltre, diciamo che dal punto di vista della potenzialità grafica è relativo rispetto a Defender of the Crown, però inserisce l'elemento del 3D, del combattimento 3D, che allora era proprio lì per innovazione, insomma. Quindi ecco, diciamo che questo gioco forse ci ha avuto poco successo, da che so io, perché non è che è conosciuto tanto da tanti, però in realtà il gioco ci poteva anche stare, insomma, a parte queste cose stucchevoli, appunto, delle sparatorie, che tu devi spostare il cursore per sparare su uno, su quell'altro, ovviamente tutto lento, fatto con joystick, c'era, cioè, una cosa terrificante, insomma, però tutto sommato, dai, era divertente, insomma. Il problema è che alla fine tutte queste sessioni si ripetevano 4-5 volte, cioè, capito? Quindi è la ripetitività, esatto, per allungare il brodo praticamente tu facevi tutte queste cose 5-6 volte fino a che ovviamente non arrivavi al finale, che manco... il finale, che c'è la donnina, che... non so se la donnina è proprio il finale, sai, devo dire la verità. Come... spero di sì a questo punto. Come... sì, perché... conquisti la galassia, insomma, boh. Vabbè, sì, che poi in realtà è non neanche ambientazione spaziale, perché in realtà è un guerra futuristica sulla Terra, insomma, fondamentalmente. Però... io ad esempio, infatti, questo non lo conoscevo proprio, l'ho conosciuto ieri mentre stavo studiando, e dico: che cacchio è mosso SD? Che poi ho scritto solo SD e non mi usciva. Perché quei puntini? Allora poi ho visto che è Strategic Defense Initiative. Sì. Ok. Sì, okay. Se, tra l'altro ricorda anche un po' XCOM da un certo punto di vista, perché c'è pure una schermata dove c'è la sala di controllo con tutti i monitor che monitorizzano ovviamente il pianeta, con le varie schermate strategiche, tattiche. Insomma, devo dire, poi alla fine, cioè, qualcosa c'era anche come intuizione, cioè narrativamente, però ribadisco, sembra un po' Defender of the Crown con lo spazio, insomma, fondamentalmente. Però la cosa della donnina, tra l'altro, cioè, nel senso, se, a ripensarci oggi dici: vabbè, ma che è sta cazzata, cioè, nel senso, ma perché ce l'hanno messa là, ha funzionato, allora ce l'hanno rimessa su quello dopo, no? Vabbè, perché la donnina ci sta sempre bene, poi dimmi da no. Sì poi ritornerà anche all'epoca, poi ci stava sempre bene. Ah sì, questo è l'intro. Quindi adesso ci vediamo un attimo l'intro di questo SDI, così ci facciamo un attimo un'idea, insomma, del decay, come me la sono fatta io ieri. E poi la scritta CinemaWare, fatta come si faceva la scritta CinemaScope negli anni 60, quando iniziavano i film al cinema, che erano in formato panoramico. Qui c'è un tizio sotto che parla, ma vabbè, chi se ne frega. No, infatti, aspetta un attimo. Perché questo in verità è per dopo. L'intro è questa. L'altro serve per vedere alcune scene più avanti. Però per vedere l'intro senza voci è questo. Amazon non paga Deborah, comunque, sappiate. No, non mi paga nessuno di base, però vabbè. Noi pubblicizziamo a gratis. Esatto, che ci frega. Allora, vedete qui. La musica è diversa da quella di Defender of the Crown, ma lo stile è simile, anche come tipo di sonorità. Beh, diciamo che è una marcetta un po' più alla Star Wars, diciamo, un po' più spaziale, stellare, no? Sì, più spaziale. Diciamo, prima era più da trombette, no? Più o meno. E mo un po' più tendente allo spaziale, però. Vabbè, poi comunque, ecco, una caratteristica tipica dei giochi d'allora in generale, perché chiaramente non c'erano le risorse tecnologiche come oggi, che tutto è fatto in cutscene. Una volta se c'erano i spiegoni, c'erano le didascalie, insomma. Infatti anche qui te lo sta spiegando sotto, esatto, nel messaggio che stanno mandando. Vedi, SDI's Defense Station, Multiple Launch Detected. Immagino che lo dicono così, capito? Immagino sì. Oppure quando la voce quella là, no, già so io, no. Che tu non so se hai mai sentito i messaggi dell'erta nucleare negli Stati Uniti, no? Che sono fantastici. Hanno sta voce cupa che proprio dice: andatevene, rifugi. Proprio metti ancora più inquietudine. Esatto, così, se tu da caso non ti sei agitato, ecco, vedi, questa è un colpo di grazia. Questa è la sala di controllo, ricorda un po' XCOM sta cosa, insomma, e poi è finito il video. E adesso torniamo invece da quello che parlava, perché ha fatto più lungo il video. Ecco, vedete, Ah, annaggia, vabbè. C'era quella... quella... no, perché tanto mo ci arrivo, ecco. Okay. Vedi, questo qui era il pezzo, no? Dove scegli i missili, aspetta, no? Aspetta, perché questo qua fra un po' arriva quel pezzo dei missili che è bellissimo. E poi aspetta, vedi che sta cosa che scende qua fa molto robottoni giapponesi, no? Quando vanno, stanno entrando nel robot, sì, che scendono vanno dentro al robot. Eh sì, perché lui sta andando. Questo secondo me è preso un po' da robottoni giapponesi, sta cosa. Che poi, tra l'altro, se tu ci pensi, nella sala di controllo lui fa tutto lui, no? C'è solo uno che combatte tutti quanti. Cioè lui sta... Allora, diciamo, questi stanno seduti qua a fare sta bella vita, vedi, la gente qua. E lui fa tutto lui. E lui si fa il mazzo. Esatto. Vabbè, è il supereroe del turno. D'altronde, qualcuno deve pur fare, insomma. Qualcuno deve fare suo sporco lavoro. C'è questa sequenza che sarà sempre quella, praticamente, che tu, ovviamente, lui che corre. Dentro la sua navicella, evidentemente, ed ecco qua, questa è la parte in 3D. Dove e c'è la donnina sopra, giustamente. Sì, che poi non mi ricordo neanche com'era collegata la storia, cioè perché tu vai lì e liberi lei, cioè nel senso in realtà stai a combattere i terroristi, boh, vabbè, comunque. Però anche sta cosa che c'è lo schermo con uno che te parla mentre stai a guidare il robot, cioè questo è tutto molto, secondo me, preso da un anime giapponese. Può essere. Il modo in cui scende, come va il robot a corsetta, e poi lo schermo che te parlano mentre stai a combattere, cioè veramente uscito da qualche robottone, capito? La corsetta fa molto Goldrake, poi. Sì, poi è sempre la corsetta, quindi insomma, ieri quando ho visto questa cosa ho pensato subito al robottone giapponese, onestamente. E questa comunque già era una fantascienza, sta roba, comunque un 3D, comunque una grafica vettoriale piena, comunque fatta in una certa maniera, a 5 fotogrammi al secondo, però voglio dire, l'amica questo faceva e comunque era già incredibile da suo, E qui c'è, secondo me, prende un po' spunto anche da un vecchio gioco del Commodore 64 che è Elite, che era proprio un gioco spaziale d'esplorazione dello spazio, o addirittura potevi fare il commerciante dello spazio, e questa è una sequenza che lo ricorda moltissimo, perché quando tu attraccavi nelle stazioni spaziali ovviamente lo dovevi fare manualmente, e se sbagliavi schioppavi te, scoppiava pure la base, quindi era un macello. E quindi vedi, qua sceglie Energy Shields, Radar, fa un po' anche Star Trek, no? Che so, mettete gli scudi. Sì, diciamo, no? Che ci prende tutto il compendio della fantascienza di allora, ma in realtà dopo, se magari dopo andando avanti, magari verso la fine, verso tre quarti, cioè, ecco, questa è fondamentale. Fermi, perché guardate, vedete il missile? Eccolo il missile che sta facendo. Allora, tu mi devi spiegare perché il missile deve fare avanti, Andrea. Cioè, nel senso. Perché così è più difficile prenderlo. È stato sì, ma poi guarda, è fatto male il sistema di mira. Cioè, non... il sistema di mira è fatto malissimo. Cioè, è una cosa proprio fatta proprio. Con le chiappe. Mi spiace dirlo, però è fatto proprio brutto, perché tu spari, a volte lo prendi, ma non te lo segna che l'hai preso. Cioè, vabbè, comunque questo è un modo per distruggere i missili nucleari e salvare il mondo. Comunque, verso la fine poi c'è quello shooter che io ti dicevo, la parte della base spaziale, che praticamente, se tu lo vedi, ti ricorda un'immagine di Star Wars. Cioè, proprio... quindi secondo me prende a piene mani un po' da tutto, ma certo non è... Prende un po', sì, da tutti loro. Ti ho detto, ecco, anche io ho visto molto robottoni ieri. Attenzione qua, quando corre, cioè, vedi, qui corre verso sinistra stavolta. Ma lo sai perché? Perché è appena andato a libera lei. Prova un po', torna un po' indietro. Vedi. Prova un po', forse... No, perché adesso sta andando, ecco. Ah, no, okay. Il momento è quello lì, molto da sala giochi. Ma alla fine di questo... Come si chiamano? Quelli là che, sì, con la pistola. Esatto. Come si chiamava? Non mi viene in mente, qua dalla sala giochi tipico. Sì, perché poi dopo c'era quello tipo quelli a binario, praticamente, no? Ma questo, dopo che tu fai tre volte questo, arrivi da lei, poi, no? Che poi, tra l'altro, guardate il corridoio, è un po' Star Trek e un po' Star Wars messi insieme. Cioè, ovviamente, sì, sì, detto. Sì. Ma loro non penso che non penso cercassero l'originalità, cioè. Alla fine quello che gli interessava era. Ma hanno preso un po' qui, un po' lì, e hanno fatto un po' putpurri, dai. E niente, alla fine di questa sequenza c'è lei, c'è la zinnona russa che... A 2 minuti e 50 ancora per arrivare alla tipa, quindi direi che possiamo anche avanzare. Esatto. E vedere il momento, insomma. Eccolo qua, il momento uguale a prima, che non c'è il camino ma c'è il pianeta. C'è il pianeta, esatto. Il pianeta... Però la tipa c'ha i tacchi, perché vedi, è più moderna, lo stivalone fino praticamente ai mutande più o meno. Perché il pianeta is the new camino, questo è un po'... No, perché gli stivali sono i nuovi pantaloni, capito? Fa da pantalone. Ma vedi pure lei come... Vedi, bacino, e beh, giustamente. Però, è stato, però non è, c'è la mano sul pacco come prima, delusione, delusione. No, diciamo non c'era tempo, esatto, forse. Esatto. Di là eravamo già conquistati i territori, qua c'è ancora da combattere. È vero, dopo, è vero. Dopo. Vabbè, questo è gioco, insomma, fondamentalmente. Dai. Questo è il decade SDI, Strategic Defense Initiative. E il finale, com'è il finale? Non ricordo. Sempre qua. Ah, la Casa Bianca. John McCormick, congratulations. Sì, sì. Your performance. Potevano far very good. Potevano far meglio col finale, diciamo. Potevano far meglio il finale. Comunque, Simone, infatti, dice 2017 è già passato, esatto. Ormai è ambientato nel passato questo, esatto, gioco. Questo gioco sembra Ghost and Goblins, la musica, diceva Stolfo. Adesso dice Time Crisis Virtua Cop. No, io dicevo... mannaggia, non mi viene. Proprio quello tipico. Ah, vedi, la gente al cinema? Ah, vedi, perché era uno spettacolo. E certo, perché... Vedi, vedi che il cinema, vedi? È il cinema, film, nel film, esatto. Cinemaware. Questo... Vedi gli spettatori, basta. Cioè, rompe la quarta parete sta cosa. Cioè, rompe già... ma pure la quinta, a quanto pare. Esatto, pure le palle un pochetto. Però no, vabbè, dai, questa era l'intuizione loro. Loro proprio dichiaratamente volevano riportare un po' un certo tipo di cinema. E lo vediamo col terzo gioco, che secondo me è proprio un'ispirazione del cinema noir degli anni 30, insomma, in qualche maniera. Quindi andiamo al terzo gioco. Questo già lo conoscevo di nome, non ho mai giocato, ma lo conoscevo. Che si chiama The King of Chicago. E passiamo al 1987. The King of Chicago, Amiga. Quindi andiamo invece a parlare di roba di mafia americana, insomma, e quindi di malavita e di boss, di negozi da bruciare, roba da far esplodere e gente da sparare nelle case. Sempre il momento Virtua Cop Time Crisis, perché non devi prendere le persone buone alla finestra, ma devi prendere quelli cattivi. Quindi diciamo il minigioco più o meno, ripeto, un po' si ripete. E vediamo anche The King of Chicago qua, le immagini. Ecco qui le immagini, ad esempio, ecco. Piccola. Non c'è stata un'immagine grande, ecco qua. Ecco qua. Quindi questo qui, però, da quello che ho visto, insomma, c'è un po' più di storia in confronto, secondo me, ai primi due, perché ci sono più dialoghi. Quindi anche qui il problema era l'inglese, perché all'epoca erano solo in inglese, io ero pure piccola, quindi se avessi avuto questo gioco non ci avrei proprio capito niente, perché dovevi anche scegliere, c'erano anche scelte di dialogo, cioè cosa che secondo me era importante. Ad esempio, proprio all'inizio, al minuto uno, ci sta lui con la pistola così, e ti fa scegliere dal tre... risposte, e a seconda della risposta poi comunque un minimo cambiava, cioè nel senso c'era pure una risposta sbagliata che magari ti faceva pure perdere, da quello che ho visto, no? Quindi, cioè, pure sotto questo punto di vista, il fatto delle scelte nell'avventura, beh, diventa proprio un'avventura, no? Cioè la storia narrativa con scelte che cambiavano le cose, quindi sotto questo punto di vista tanto di cappello a The King of Chicago, no? Sì, beh, qui c'è un'evoluzione importante, perché sebbene rispetto al secondo gioco SDI, che comunque era un più action, diciamo, da un certo punto di vista, qui, diciamo, rientra un po' l'elemento strategico, perché c'è comunque la parte gestionale, però è più un'avventura grafica da un certo punto di vista, perché sono moltissimi dialoghi a scelta multipla, e ovviamente questo secondo me è stato il gioco più penalizzato in Italia della Cinemover, proprio perché alla fine comunque la lingua era importantissima, cioè dovevi comunque capire quello che stavi a spingere, insomma. Però poi alla fine era anche pieno di, a parte questa ambientazione anni 30 americana, era anche piena di tante animazioni, c'erano varie sequenze, la macchina, varie cose, insomma. Comunque anche qui graficamente ancora una volta, anche se, diciamo, l'effetto wow di Defender of the Crown non c'è, però vediamo proprio i personaggi molto grandi e molto dettagliati, cioè proprio dal punto di vista proprio pittorico sono fatti bene. Poi possono non piacere, un po' non piace lo stile, quello che vogliamo, no? Però insomma, qui insomma siamo ritornati ad altissimi livelli, insomma, rispetto a SDI, che secondo me da quel punto di vista della grafica proprio più pittorica, più bitmap, secondo me non c'aveva tanto da dire rispetto a difendere a King of Chicago. Questo lo conosco poco, devo dire la verità, cioè ci ho giocato, non ci capivo un cazzo, quindi andavo un po' a caso e per vedere le sequenze. Col cuore, rispondevi un po' col cuore. Col cuore, esatto, col cuore, ma perché volevo vedere le sequenze, volevo vedere le animazioni, volevo vedere le cose, cioè, d'altronde alla fine cinema per questo era, insomma. Quindi purtroppo su questo gioco si può dire ben poco, però devo dire che se avete l'opportunità, insomma, recuperatelo, perché secondo me era molto stiloso, cioè proprio da l'atmosfera del gangster movie degli anni 30, secondo me lo riprende, insomma. Ma più che altro, secondo me, la differenza con gli altri due titoli è che, essendo basato di più sulla storia e sui dialoghi, il gioco dura anche di meno, se non sbaglio, no? Ho visto un po' la lunghezza del gameplay. Diciamo, di là ci sono minigiochi che si ripetono di più. Qua mi sembra che invece si sono un pochino più interessati alla sceneggiatura in confronto agli altri due, che più o meno non ce l'hanno. E mentre qui c'è appunto questa cosa dell'avventura, della scelta, del dialogo. Quindi secondo me questa volta con questo titolo si sono soffermati un po' di più sulla sceneggiatura. Quindi è diverso, secondo me, dai titoli precedenti. Poi sono d'accordo che Defender of the Crown visivamente è un'altra cosa, ma perché ho visto tutti quei colori, quanto erano belli, no? Qui cosa, ovviamente, per farlo un po' tendente al noir, giustamente non è che potevano fare una cosa molto, molto colorata, quindi secondo me ci sta lo stile, insomma. Qui lui c'ha il capello leccato dalla vacca, proprio tipico, no? E beh, perché lei dice... Lei, vabbè, sì, poi con le perle immancabili, insomma, un trucco un po' pesante, il neo vicino alle labbra quasi un po' sexy, quindi secondo me è carino visivamente, certo non bello quanto il primo, però c'è un salto di qualità dal punto di vista narrativo, che negli primi due non c'era, quindi... Sì, sì. Quasi, secondo me, si sono soffermati un po' di più sulla storia, infatti ripeto, il gioco dovrebbe essere più breve da quello che ho visto, infatti anche nei long play, vedi, questo qui 25 minuti l'ha finito. Cioè, se non fai le scelte sbagliate, il gioco non dura tanto, confronto agli altri due, che comunque allungava un po' il brodo, perché dovevi fare sempre i stessi minigiochi all'infinito per riuscire al finale, no? Mentre qui, sì, ci sono alcuni minigiochi, ogni tot dialoghi, però mi sembra comunque un po' più... cioè meno trita e ritrita la cosa, diciamo, quindi un po' più dialogo, un po' più storia, un po' più sceneggiatura, un po' più ciccia confronto alla ripetizione infinita dei minigiochi, quindi interessante secondo me questo sviluppo comunque. Sì, in realtà, guarda, te devo dire la verità, sarebbe da riprenderlo il gioco, cioè nel senso da rigiocarlo per capire anche un po', perché qui poi ci rimane un po' la curiosità, perché io e te siamo d'accordo su questa sua specificità di questo gioco, che lo differenzia dagli altri e in qualche maniera comunque lo rende anche più interessante da un certo punto di vista, però noi non sappiamo quanto poi l'aver concentrato tutto sulla storia abbia poi penalizzato magari tutto il resto, perché come dici te, comunque alla fine è un gioco che ci ha pochi asset dentro, cioè c'è poca roba dentro, no? Ci sono poche sequenze, poche inquadrature, alla fine è sempre un po' la stessa cosa, e quindi tu ti devi districare tra i vari discorsi e un po' la parte manageriale, perché devi ovviamente estendere il tuo potere, il tuo dominio, il tuo potere di criminale, e poi ci stanno queste sequenze dove devi andare a tirare le bombe con la macchina, oppure sono sparatorie. Sì, contro il barbiere, mi sa che era, esatto, tipo l'obiettivo iniziale. E se clicchi male quando passi con la macchina, so cazzi, cioè nel senso devi cliccare nel momento giusto per tirare, dagli fuoco. Sì, esatto, anche queste sono cose terribili, però ecco, se il gioco sarebbe da recuperare per capire. Terribili. E sì, perché poi alla fine sono quei giochi che o è A o è B, cioè nel senso non è che ti puoi sbagliare o c'hai un range per capire quando devi cliccare in quel momento lì e basta, cioè non ci so cazzo, cioè, non ci so perché, non ci so per come, e quindi alla fine non ti lascia tanto margine dal punto di vista del gioco, no? Mi ricorda i giochi che facevo io in Basic quando ero ragazzino, no? Che alla fine tu, cioè, c'avevi determinate situazioni, poi c'è, cioè, il momento in cui devi spingere A, basta, quello è il momento in cui devi spingere A. Cioè non è che lo puoi spingere dopo, come i quick time event tu potresti dire. No, se lo spingi dopo non hai fatto bene la missione. Esatto. Lì proprio, capito? Esatto. Cioè il tempismo giusto, con la differenza che nel quick time event ti dice quando devi premere Q. Invece qui a cuore, cioè nel senso, sta passando la macchina adesso, è boh, questo, così. È questo, cioè, secondo te in quel momento lì dovevi tirarlo? E questo è il problema, che non c'è punti di riferimento. La scena della catapulta non c'è punto di riferimento, sì. La scena della catapulta di Defender of the Crown non ci sono punti di riferimento, però poi dopo piano piano il modo in cui tu posizioni la pietra prima di lanciarla, lo prendi la misura a un certo punto, ma perché lì si tratta di prendere la misura, qui non devi prendere niente, quindi devi spingere a un certo punto e se hai spinto bene, bene, se no è male, cioè, capisci? Se no ciao, praticamente devi fare new game. E quindi ritorniamo a questa visione un po' dilettantistica del vedere un po' la parte strettamente dei gameplay, no? Come se da un certo punto di vista fosse in secondo piano, forse magari per loro non era in secondo piano, magari non avevano le skill per poter fare una cosa fatta meglio, insomma. Poi appunto, cioè, se vai a vedere, sì, secondo me qua hanno voluto proprio raccontare qualcosa, cosa che, ripeto, nei primi due no, invece qui secondo me c'è la voglia di un racconto, capito? Cosa che non c'è stata prima. E quindi toccherà rimediarlo per magari nel suo emulatore e vedere che cosa ci racconta. Per recuperare cosa ci raccontano, esatto, qua questi re di Chicago. Esatto. E intanto Alessio dice: bando alle ciance, la scena con la donnina c'è? Non lo so se c'è la scena con la donnina, no. Ma guardiamo insieme intanto l'intro e poi andiamo avanti a vedere se c'è la scena con la donnina. Questa volta davanti, che ne so, a dei cadaveri ammazzati dalla banda criminale. No, comunque non credo che ci sia. Ma ormai ci tengo, onestamente. No, non c'è, non credo che ci sia, insomma. C'è, guarda, no, questa scritta proprio un po' così. Vedi con gli spari qua. Sì, ma poi però le musiche sono belle. Beh, sempre qui l'ispirazione, l'atmosfera c'è tutta. Però dai, sta scritta così delicata, no? Così, si occupa poco spazio sullo schermo. Esatto, chi c'è scritto, scusi. Ma non è che il re di Chicago, niente niente. Perché? Ma poi viola, cioè, perché viola? Forse perché non lo so. Vedi, inizia subito, no? Con lui che inizia a parlare e c'hai subito le tre scelte, vedi? Che faccio? He's got it coming, better lay low, ho fatto in tempo, vabbè. E quindi a seconda di quello che scegli, poi vedi come ci guardano. Sì, quindi a seconda di quello che scegli poi cambierà quello che succede, quindi voglio dire 87 è tanto di cappello. Assolutamente, infatti ho detto sono curioso di riprenderlo sto gioco in qualche maniera, perché mo te sto un po' spoilerà, però no vabbè, ma anche stiga, no, però vedi che se c'è la macchina mo fra poi escono con la macchina, questo sarà il grande capo, vedi, il grande capo che dà la missione del barbiere. Devi dar fuoco al negozio del barbiere. Lui si chiama Pinky, lui il protagonista. Bello, complimenti. Tipo Pinky and the Brain, capito? Cioè, mignolo col prof. Scusi, lei così. Abbiamo piantato 190 milioni di alberi, no? Non è, diciamo che non è questo. E soprattutto non ci pagano, questa. Non ci pagano. Però vedi, bella la. Vedi, parte la macchina, erano nascosti nel vicolo. Vedi, ti premi quando devi tirare la bomba, però non ti dice quando. Quindi tu passi e mo questo l'ha tirata bene, però va a capire. Sì, perché di solito prendono lì vicino a dove sta il coso, il lampione praticamente. Perché poi le scene sono sempre le stesse, eh? Cioè. Vabbè, questo ci può anche stare, insomma, tutto sommato. Vedi, è proprio. Ah, c'è lì proprio Capone, vedi? Ah, quindi allora stiamo parlando anche di cose di un certo livello. Vedi, anche qui mo c'ha altre scelte. Che faccio? Vedi? Quindi dimmi che sta cosa era proprio avanti. Cioè, nel senso, i primi due ti ho detto la storia non c'era. Qua invece è proprio. È tutto storia. Tutto basato no? sulla storia. Sì, sì, è vero. Sì. sulle scelte. Oh, bisogna quindi vedere. Ben could be the Kingmaker. A quanto pare ha scelto che Ben sarà questo Kingmaker, insomma. E questo sarà Ben, non lo so chi sei, chi è questo. Questo è cosa? È Galliani, quello del Milan. Può essere. Oh, è Galliani, guarda, Galliani. Poi sono un po' magro, cioè questo è un po' macrocefalo sì, confronto al corpo. Sì, sì. Perché il corpo, se vedi, è sempre lo stesso, cambia però il fazzolettino. E poi ci appiccicano la capoccia differente sopra, è quindi vero. Questa cosa è un po' inquietante. È vero, la capoccia è un po' spropositata, in effetti. Però lui bei capelli, bisogna riconoscere. Infatti Simone ha detto al capoccione, vedi? Non è al capone. Santucci snoparti, c'era scritto lì, eh? Comunque Alessio dice, posso dire che King of Chicago sembra un titolo Quantic Dream ante litteram? Esatto, infatti anche oggi Mattia su Telegram ha detto che erano i Quantic Dream dell'epoca. Se non sbaglio Mattia l'aveva detta questa cosa. E obiettivamente stiamo vedendo che è così. Quindi vabbè, qui tutte le scelte con questo. E qui ci aspetta, c'era un altro inquietante. Questo era... è seduto con la sedia che sta un po' bassa, dovrebbe alzarla un po' di più, sa? L'hanno proprio affossato. Senti, senti le musiche, quanto sono noir, no? Cioè, senti che c'ha la sedia troppo bassa. Ma perché l'hanno affossato? Alzagliela. Ma perché l'hanno affossato così, scusa? In realtà lui sta in piedi. Perché no, non è vero, c'era il resto del petto, perché siccome usano soltanto i petti, lo stesso petto ma girato e col fazzolettino diverso, che è anche questo lo stesso, però potevano usare un altro pezzo. No, non lo so perché è così basso, onestamente. Ma no, lui in realtà sta in piedi, In piedi in verità. Ma poi almeno il colore delle giacche potevano cambiare. No, cambia il colore del fazzoletto. Qui c'è un po' di pigrizia, Cinema World. C'è un po' di pigrizia in tutto ciò. C'è anche, vedi, il giornale che ci racconta un po' le notizie. Vedi, vedi? Il Chicago Globe. Famosissimo. Quindi vedi, c'è proprio tutto il racconto con tanto dei giornali, che è una cosa che si vede in tutti i giochi, anche attuale, anche adesso a The Taumaturge. Giornali a gogo a leggere notizie, quindi vedi che è una cosa che continuano sempre a fa. Qui vediamo anche quanto stanno a guadagnare il boss, paghi Lola. Paga meno Lola, non so perché sta pagando meno Lola, così hai meno spese. Eh sì, comunque vedi, questa... niente, Lola sa più lì perché gli è stato togliendo tutto lo stipendio. Non è più stipendiata Lola. Sta a levare i soldi a Lola, poveraccia. Ha levato i soldi a Lola. E la tua scrivania con, vedi, la tipa che spero alla fine sarà mezza nuda, perché ci teniamo tutti ormai. Sai che mi sa di no comunque. Quindi niente, e poi stai, poi ci sono i fazzoletti tempo. Un saluto ai fazzoletti tempo. Sai che dovresti con morbidezza. No, stavo a dire, dovresti usare DuckDuckGo come browser, che almeno te leva tutte le pubblicità di YouTube. Ah no, non lo conoscevo. Qui c'è un po' di carne, tra un po' ci vi affamo praticamente. In tutto ciò, con tutte le sparatorie dell'epoca, anche se sarei stato così basso sulla sedia. Beh sì, non si sa mai, anche perché poco prima comunque il nostro Pinky gli aveva puntato una pistola addosso, quindi è normale che stava così basso. Ecco, sono partiti. Però stavolta non è il barbiere, ma vanno a prendere qualche altro sfigato. Che però è lo stesso il grill, no. Vedi che tutto torna al grill. Ah, vedi, eccolo il momento in cui tu devi sparare. Ah sì, alle sempre finestre, hai, sì, è sì, il gioco sì. Di prima, sì. Vedi, hai quei giochi lì da sala giochi, insomma, devi sparare i cattivoni. E poi una certa si vedono anche donnine, perché sempre donnine ci stanno. Che fai, ce le metti? Alla finestra, e non gli devi sparare donnine, se no fai danno, insomma. Sì, è bello. Oggi non appaiono le donnine, a me l'altro giorno sono apparse le donnine. Oggi niente donnine. Ecco, la vedi, la donnina. E non gli devi sparare, quindi... un'altra donnina, attenzione. E quindi questo è il decade del gioco, quindi i dialoghi, le scelte, i dai fuoco al negozio di turno, para Galliani. I cattivi, non alle donnine, c'hanno le bocche storte, è un po' inquietante questa cosa però. Questo poi c'ha la capoccia schiacciata, oh. Ma guarda la bocca stortissima. No, ma guarda, questo è troppo strano, scusa. Comunque quell'altro c'ha la sedia troppo bassa, questo c'è il cappellino, vedi, la sigaretta de lato. Perché fa figo, insomma. Però comunque è bello durante la sparatoria. Ah! Gli e tutti si vestono dallo stesso sarto, però ripeto. No, questo c'ha pure uno sgaro in faccia. E diventi. Vabbè. I dettagli. Quindi un po' avventura grafica a scelte multiple, un po' gestionale perché devi levare i soldi a Lola. E... per il resto, insomma, io penso che questo gioco ha dato il suo meglio. Devi levare i soldi a Lola, è bellissimo. Aspetta, che c'è una scena interessante, se me la carica, perché boh, vedo che sta bufferizzando, non so perché. Perché deve caricare la pubblicità. Spero che la live si stia un po' là, che lo so, non lo so. Ah, non lo so, non credo. Ditecelo, ragazzi, in chat se si sta impallando. Mi sono impallato qua. Aspetta, il video, non lo so perché mi sono impallato il video. Aggiorno, lo rimettiamo, va bene. Ecco qua, perché guarda, aspetta, c'è una scena. Guarda qua. Ti è? Spara pure da dietro. No. Oddio, questa non me la ricordavo, sta cosa. Oddio, ho volato la macchina. Ma che è? È un po' esagerata la scena, voglio rivedere. Cioè, non è che gli ha bucata la roda. Ma perché? Cioè, è proprio volata la macchina. Ma perché? No, dai. E quindi, insomma, la macchina ha slittato leggermente. E attenzione che qua tu sta dando fuoco alla grande al negozio. Qui è proprio andato a fuoco tutto. Quindi non solo la finestrella. E attenzione, c'è una scena con la donnina alla fine. E quindi io un attimo questa... vorrei capire un attimo dove apparà questa scena alla fine con la donnina. Che è quando magari... Niente, chiacchierano. Vabbè, però lei c'è lo sguardo un po' zozzino di lei, ma niente. Vabbè, ma Harry di Chicago non perde tempo a fare queste cose. No. Deve dar fuoco ai negozi dei barbieri, Harry di Chicago. Cioè, ma allora adesso facciamo cose, no? Non io devo dar fuoco alle cose. Cioè, dai, vieni qui, bello, no? Devo dar fuoco al barbiere. Esatto. E fa volare a macchina. Vabbè, però lei era un po'... E finisce con la scritta delicatissima, comunque. La scritta che trovi dall'oculista, di solito. Per fare la misurazione del... Se te vi è il dubbio di come si chiama il gioco, The King of Chicago, così, insomma. Lo dovresti scordare, insomma. Vabbè, questo... Esatto. E poi c'è forse il più brutto. Allora, ragazzi... E poi c'è un gioco che io ho scoperto ieri, sempre l'esistenza, e avrei voluto non scoprirla, perché onestamente, secondo me, non è Cinemaware. Io non ci credo che sia Cinemaware. Perché in confronto alla qualità che abbiamo visto finora, sembrano quei giochi brutti a 20 centesimi che trovate su Steam, insomma. Cioè, boh, non... Ma allora non è soltanto brutto, perché graficamente è veramente brutto. È graficamente che è veramente brutto, ed è un peccato, perché qui, insomma, abbiamo visto la qualità finora, no? Esatto. Ma è anche folle, perché ci sono delle sequenze, delle scene fuori di testa, proprio fuori di testa. Cioè, a parte la musica, che è... Guarda l'anteprima di questa, cioè inguardabile. No, cioè, ragazzi, io vi dico, se vi capita, guardate un long play di Sinbad, perché veramente, ragazzi, ci sono delle sequenze, cioè a un certo punto appare lei, poi gli si zoomma sulla fronte su una scritta, poi appaiono le labbra gigantesche, poi... Le labbra gigantesche le ho viste ieri! Ma, cioè, perché? Cosa vuol dire? Cioè, che, o si ispirava a un certo tipo di cinema psichedelico, e allora vabbè. Ma perché è sempre il lato un po' zozzino? Ieri c'è sta tipa che è questa, che mentre te parla si avvicina sempre di più in primo piano, esatto, perché ci sta a provare, esatto. Poi si vedono ste labbra che un po' si muovono e poi vanno in fiamme sotto, esatto. Cioè, ha detto, mazza, è proprio fogosa questa. Tu dici che è proprio una metafora sessuale, no? Io è una metafora sessualissima. Io avevo visto proprio il tentativo artistico di riprodurre il cinema psichedelico degli anni 70, non lo so perché, però no è un tentativo di fare una cosa erotica così, erotica, e però fatta che fa ride, diciamo. Allora, raga, io sto gioco, questi sono dei combattimenti, esatto. Cioè, io ripeto, non sono gli stessi sviluppatori, io non ci credo, non ci credo. Poi allora questo gioco, allora facciamo un attimo un piccolo recap. Io non l'ho mai giocato, questo gioco, lo ammetto, mi ha sempre incuriosito, ma non l'ho mai giocato perché forse non l'ho mai trovato, poi mi scordavo, non lo so. Però La storia è, insomma, fondamentalmente, da quello che ho capito io, c'è sta il sultano che viene trasformato in un falco, tipo, no? E praticamente la figlia del sultano chiede a Simbad di dargli una mano per cercare di trovare una cura per non farlo rimanere falco per tutta la vita. E Simbad va in giro dappertutto e combatte contro persone che praticamente sono dei combattimenti tipo karate... karate del Commodore 64, però Karateka? Sì, però più brutto e con scenari diversi. Tipo, una volta a un certo punto combatte tipo col coso, con l'uomo dei nevi. C'è l'orso. È l'orso, l'uomo delle nevi. Non mi ricordo che cosa. A un certo punto lui combatte contro una cosa bianca. Non sì, sì, è l'orso. Ieri l'ho visto e ho detto: cos'è questa cosa? Esatto, perché poi è talmente brutto e spixellato sto gioco. Guarda pure il leone quanto è brutto. Cioè, sembra un ragazzino piccolo quando disegna. Eccolo, bravo, questo qua, bravo. Che veramente io non riuscivo a identificare le figure, cioè non riuscivo a capire che cosa sto vedendo. Ma cioè, questo io ho detto no, questo non può essere loro, non ci credo. Ecco lo screenshot delle labbra, vedi, guarda il dettaglio delle labbra che si vede che è loro. Uh-huh. No, e guarda questo, cioè secondo me questo è fatto da loro, dalla Cinemaware. Ah. Il momento labbra focose. Questo è fatto dal figlio di uno di loro, perché se non si spiega. Ma tu lo sai che io stavo a pensare la stessa cosa? Stavo a pensare proprio a un figlio di loro, cioè gli hanno detto ai figli, gli hanno detto vabbè, voi fate ste parti qua, dai, così almeno fate qualcosa. Dai, questo è disegnato dal figlio di uno di loro. Sì, ho pensato pure la stessa cosa. Perché sennò, cioè, passi da queste, che comunque sono fatte bene queste labbra, cioè tanto di cappello, a questo. Che un bimbo dei elementari disegna così, cioè non... Quindi insomma sui figli, oppure sono convinta siano i figli. Oppure mi sta venendo un dubbio che magari sto gioco hanno preso i pezzi che hanno fatto su Commodore 64 e hanno provato a riportarli su Amiga, perché se no non si spiega veramente, cioè la grafica di sto gioco è brutta, per essere brutta, a parte che non si capisce il gioco, cioè io non lo capisco il gioco, cioè... Che comunque... Io non capisco proprio il gioco. No, non capisco proprio il gioco, e tra l'altro se riassume questi combattimenti tipo Street Fighter, praticamente, solo che fatti male e con degli scenari diversi, con personaggi diversi, che a volte ho detto all'orso, tu mi hai detto te che era l'orso, perché per me era il coso, era... Cioè, penso sia un orso bianco. Esatto, per me era Bigfoot. Non nel dubbio, dovrebbe essere un orso bianco. No, per me è Bigfoot, capito? Cioè, nel senso, perché sta, e mi domandavo perché sta combattendo contro Bigfoot. Cioè, perché... Ma che c'entra col sultano diventato falco? Esatto. Ma che c'entra? No, ma soprattutto perché uno dovrebbe andare a prendere a pizze il povero Bigfoot che non ti ha fatto niente? Che sta sul monte a fa' sì, cazzi, esatto. Suoi. Dice, ma io che c'entro? Esatto, e lui dice, ma che vuoi? Scusa. Vabbè, comunque dai ragazzi, sto gioco... Infatti dalla chat sono perplessi, e adesso saremo ancora più perplessi perché comunque dopo le pubblicità che non ci pagano. Che non ci pagano, però vedremo insomma insieme sia l'intro e qualche momento di combattimento e le labbra focose, che secondo me le labbra focose spingono. Oddio, mi ha toccato il gatto, mi ha preso un colpo, cioè mi sono sentita toccare sulla spalla. Oh madonna. Ho detto cos'è, era la zampa del gatto. Era Sinbad. Era l'orso grilla, cosa. Bigfoot. Vabbè, ma ci stiamo. Basta, pubblicità, andate via. Lo so, i Bloom Cake, mi sta venendo, ho detto, una certa mi verrà fame. Quindi eccolo qua. Vediamo l'intro qua. Vabbè, del gioco più brutto. Loro. Tra l'altro pure l'intro è brutta, cioè nel senso, quindi non prometteva niente di buono. Vedi, già donnine comunque, sono un po' fissate. Comunque. Ma poi come cammi, cioè... No, secondo me c'ha una scopa nel deretà. Anche queste due sequenze sono. Poi ecco, vedi? Ecco perché te parlo. Lei è angosciatissima, però. Cioè, è psichedelica sta roba, capito? Cioè... Eppure la musica, in confronto agli altri, è più brutta. Ma non solo è brutta, è terribile, perché tutto il gioco con sta musica. Terribile! Sì. No, niente, cioè. Cioè, finora le musiche spignevano. Questa è psichedelica pure la musica. Senti il timpano come esplode. No, ma poi ci saranno pezzi che sarà anche peggio, che sarà più ancora abbasso, più carica. Ragazzi, perché sennò moriamo tutti dentro. Alessio dice voto per un long play di Silva. sì, di Silvan, senti a me. Di Sinbad da parte di Deb, no, lo vediamo stasera, mi basta. Però sarebbe divertente, eh? Non mi voglio così male, insomma. Tu ancora. Giochi, io faccio la reaction, quindi... In tempo, esatto. Reale. Allora così sì. Vabbè, qui racconta insomma di tutti i cazzi di Sinbad di quell'altra e va bene. Il riassunto proprio su sulla sinossi c'è cioè, anche perché sono scritto, cioè qui hanno fatto tipo a Boris lo dimo e non lo famo, esatto, praticamente. Sì, gli costava. Purtroppo le didascalie erano una cosa abbastanza ricorrente all'epoca. Beh, però finora no, finora era tanto ben raccontato alla cinema proprio, e invece mo stanno. Eccola la tipa, subito poi c'è lei. Ma poi guardate che brutta sta. Per dire a lei che cioè cosa vuoi risponde? Gli è brutto, devi fare tipo il menu di Windows. E senti, che non so, parla. Questo è un mosaico. So, vattene. Cioè, è veramente brutta anche sta cosa di qua sopra, vedi? Cioè, lui seleziona qui e risponde a lei cosa deve fare. Cioè, è inguardabile sta cosa del menu di Windows, praticamente. Vedi? Ah, vedi, sì. Lui dice, reply risponde, no? E gli chiedi come risponde. Cioè, boh. No, ma poi, cioè, vedete la grafica, raga? Cioè, ma lei sembra un mosaico greco del 1000 avanti Cristo, cioè. No, anche cioè, se addosso c'è il rosso pompeiano. Esatto. Guarda come sculetta. Ma perché si scuote così, se si percuote da sola? Che perché questa muove. Eccola, guardate questa scena, raga. Guarda, madonna mia, io. Cioè, questo è un horror, raga. Questo è un horror. Vieni qui, Sinbad. Vieni qui, Sinbad. Ma senti la musica. Cioè, ma a voi maschi vi arrapa questo o vi inquieta? Onestamente, una che mi fa vieni qui, Sinbad, così, madonna mia, raga, paura. Io farei ma che poi le labbra sono fatte bene. No, dai. Musica orrenda e muove a fuoco. E quindi la vera passione. Ma secondo me c'è un po' di Monty Python in tutto questo. Cioè, non so perché, però. Per me c'è un gioco da 20 centesimi su Steam. Anche sì. Guarda gli stacchi di. Hai visto? No, psichedelico, dai. Troppo. Comunque è una follia sta scena. Cioè. I possess you, my pet. Mamma mia, io ti giuro, ieri quando ho visto ho fatto paura. Sto vedendo. Esatto, cosa sto vedendo? Esattamente quello. Perché, capito? Cosa, cioè, e poi riparte la musichina, quella straziante proprio nelle orecchie. Sì, vai a cercare Bigfoot, dai, che è più divertente. Vedi, poi qui scegli dove andare, no? Con Sinbad, sì. Dove è infratto? Vado a rompere i coglioni a Bigfoot. Esatto, gli vado a dare due schiaffi così tanto per. A chi gliemenamo oggi? A Bigfoot. Tanto dalla chat dicono, Maria dice anche i balloon per i testi sono proprio disegnati a caso, con Paint. Secondo me è fatto con Paint questo gioco. Incubi d'oro. Secondo me c'ha la sorpresa, dice Franky. Sembra un video dei Dokken. Chi sono i Dokken? Non lo so. Gruppo me dall'anni 80, ok. Ah, e qui c'è la Vecia. Si passa dalla tipa fogosa alla Vecia. Vabbè, basta che la Vecia non fa le stesse cose di quell'altra. Perché. Guarda, se fa la stessa cosa di prima, aiuto. E no, la Vecia ti parla, fortunatamente. Anche loro si sono rifiutati, insomma. Comunque, la Vecia. Poi addirittura c'è il primo piano, vedi, della zona. Però lo fai sempre col menu alla Windows, quindi boh. Non lo so, sta cosa del menu alla Windows la trovo molto bella. Però io farei notare la finezza della lente che crea l'alto contrasto, cioè che è come se la lente fosse gialla, vedi che enfatizza. È figo quell'effetto lì. Per il resto va veramente. E c'è da dire che poi ci stanno i minigiochi immancabili, i minigiochi che arriveranno a breve, mo tra un po' li troviamo. Qui c'è un drago che poverino ha due teste, però una testa è esageratamente storta, non so che cosa sia. E mo, ecco qua, vedi, quella barca che è di una cosa brutta, ma di un brutto che. Boh. Io ripeto, questo l'hanno fatto farlo ai loro figli, sono convinta di questa cosa. Ecco, e poi c'è il minigioco di lui che praticamente si sfracella. Però posso dire che questo c'ha un'intuizione, sta parte qui. Però posso dire che è brutta. Però rispetto a tanti giochi, il fatto che comunque devi pure la direzione, vedi, c'è anche il parallasse dietro, vedi le cose che stanno più in primo piano e quelle in secondo piano. Cioè, questa qua forse è quella che c'ha un. Dice la meno peggio. C'ha un suo senso d'esiste, diciamo così. No, non voglio dire che che è fatta bene, perché non mi vorrei permettere di dire una cosa del genere. Dice, però in confronto al resto, quasi c'è, è meno peggio. Esatto. È meno peggio. Perché, no, cioè, secondo me è inguardabile anche questo. Ma anche questa, però vedi che comunque ce l'ha un senso da un certo punto, come gameplay. Attenzione. Come gameplay ce l'ha un senso, però poi dopo alla fine, attenzione che ho trovato la neve. Eccolo da schiaffi a Bigfoot. Attenzione che si sono, eccolo. Dai, vedi, Bigfoot. È un orso, no, Bigfoot, dai. Per me è un orso. No, è vero, è un orso, c'hai ragione. Ma poi perché l'orso sta in piedi? Ma che è sta cosa? No, ma visto... io ripeto, perché Sinbad deve finire, non so dove, sui monti, in mezzo alla neve, a petto nudo, poi, perché lui viene dai paesi caldi, capito? Lui lo e sprite... va sul monte a petto nudo. Allora, lui a petto nudo perché lo sprite oramai l'avevano disegnato, quello era. Era quello, esatto. Non gli potevano mettere in cappottino. Esatto. E comunque lui va in giro perché deve cercare la cura per il falco lì. E quindi non ha tempo di coprirsi. Però io non l'ho mai visto un orso che piasga nasoni alle persone, cioè... Boh, vabbè, sta cosa è veramente fuori di testa. Io ripeto, io non ci credo che è loro, insomma c'è un errore. Eppure gli è accreditato. Magari un giorno... sui figli. I figli li hanno obbligati a dire fai sto gioco con i nostri disegni. Una volta li intervistiamo in archeologia informatica e glielo chiediamo. Ma voi, ma voi disconoscete questa opera? Ma l'hanno disegnata i vostri figli. Esatto, noi abbiamo questa ipotesi. Qua combatte con un monaco, credo sia. Ma che ne so. Che sarà un monaco questo, non... cos'è? Non lo so, è uno che ha la gonna. Sto giocando. In chat stanno tutti schifati praticamente. Salvia. E poi è brutta pure la musica del combattimento, perché non è una musica, è ti. Cioè, questo non è musica. Ah, guarda, il fine combattimento si distrugge l'immagine. Esatto, cioè manca di uno per terra che muore, no. Attenzione, cioè, momento però a braccino, è immancabile il momento a braccino. Perché dopo 16 minuti di gioco c'è l'abbraccino? Eh no, sta tornando. Che è il replay? Ma cos'è? Il replay di prima. Cosa sta facendo? Racconta quando ha ammazzato il monaco. Ed è tornata la musichina. No, la musichina terribile, veramente, ragazzi. Mo gliela metto a Gabriele come suoneria del cellulare a sua insaputa. Domattina, quando si deve svegliare, sai che colpo? Però il tempo passa, è tornata la Vecia. E secondo me la Vecia è una certa, pure lei ci darà qualche bacio infuocante. Infuocante, sì. Focoso. Infuocante, focoso. E vabbè, Sinbad continua ad andare in giro. Questa volta combatte con un coso. Questo è un coso, non ti so dire cosa sia. Non lo so, sia. È tipo un mostro che fa. Però c'ha le ali, quindi è una sorta di. Non lo so. Una sorta di. Non lo so. Di grifone, però non è un grifone. Ha una sorta di. È qualcosa di mitologico. No, non lo so. Una cosa inventata sempre dai figli di questi. No. Si sono svegliati la notte e avevano fatto stincubo. Ho sognato una sorta di ghepardo con le ali che combatteva con Sinbad. Capito? Cioè, una cosa così. Però il grifone c'ha il muso d'aquila. E invece questo qua, no, era una sorta di felino. Quindi era una cosa. Il leone con le ali. Come si chiama il leone con le ali? Sta negando Sinbad da qua. Ma guarda che animazione. Sì, tra un po' vomito. Un po' vomita la cena praticamente. Ma forse è uno stile grafico questo. Può essere che siamo noi che non l'abbiamo capito. Siamo noi, sono troppo geni artisti e noi non l'abbiamo compreso. Non abbiamo capito, noi stiamo facendo questo stile grafico che si chiama No, calcola, praticamente essendo un gioco dell'87 nel 2024 ancora non lo capiamo, magari nel 2044 forse qualcuno lo scoprirà. Sì. Esatto, sì, lo capiranno. Troppo avanti, è ancora troppo presto, sono troppo artisti e geni per capirlo. Esatto, comunque è basta, e quindi non basta ancora. Sì, ma basta per gli anni in cui stiamo. Aspetta, perché ci sono delle cose molto belle secondo me da vedere. Tipo questo che c'ha tutto il monitor, sta qua pezzetto. Perché? È vero, è tutto sbilanciato comunque. Ma tutte le inquadrature sono sbilanciate, lo sai, in favore ma di poi, cosa? Tu i balloon, ma manco da bambino li facevi così male, no? Cioè io non ho mai fatti così male i balloon, sempre no. Tondini. Beh, cioè, che questo è un budo, un budo. Un budo, secondo me non sono fatti male, sono fatti apposta così. Perché ripeto, non lo comprendiamo noi. Esatto, esatto, io sono, oramai sono sempre più... Dai, questa musichetta... Però questo... almeno questa è una pantera, dai. La pantera. Al mare sta la pantera. È il nemico, non lo so, vabbè, togli il mare. Però è il nemico più normale finora, la pantera. Una pantera al mare. Una volta ogni tanto torna la Vecia. Sì, perché lei ci racconta cose, la Vecia. C'ha la saggezza. La Vecia ci racconta cose. La saggezza. Attenzione, c'è il momento in cui devi tirare la pietra. Aspetta, questo è bello come minigioco. Tira la pietra al ciclope. Ma se mira questo, ha preso subito. Certo che se al ciclope lo becchi in un occhio, ha rovinato. Cioè, è un po' una cattiveria gratuita verso il ciclope. Insomma, stava per cazzi sua, nella grotta sua. Già stai andando in giro a romper cazzo a tutti. Cioè, questi stanno a fare i cazzi loro, no? Esatto, è arrivato Simbad. Scusa, a me fa ride questa. Ma poi... Sono in primo piano, così, sul lato. Ma perché? Niente, sta cosa mi fa troppo ridere. Tutto per lasciare spazio al balloon poi, eh? Cioè, nel senso, tu sbilanci la proporzione dell'immagine per che cosa? Per il balloon. Per il balloon è brutto anche. Ecco, questa era l'anteprima. E dovrebbe essere un genio della lampada. Vedi, c'ha la lampada, guarda. Mo' ho visto. Guarda l'effetto. Tutto psichedelissimo. Senti, secondo me sto gioco è un capolavoro e noi non abbiamo capito. Noi non capiamo, non capiamo. Continuiamo. Aspetta, c'è un'altra scena stupenda che secondo me è imperdibile. Questa. Ma che cos'è? Oddio, ci sta ipnotizzando. Dai, secondo me ci sta ipnotizzando. T'ho detto che è Monty Python, su. Comprate le remastered dei giochi. Comprate le remastered dei giochi. Beh, questo se esce la remastered subito al day one. Al day one. Adesso sta a combattere contro Superman. Cioè, chi è quell'altro? Scusa, posso sapere? Ma poi come si muovono? Cioè, ah! Tendo contro. Mamma mia, la musica, aiuto. E poi c'è una. Attenzione, oddio, scusate. Io proprio oggi mi attacco epilettico. Spero esatto che nessuno abbia problemi. Ma cos'è? Scusate, non sapevo che era così epilettica questa cosa. Io ho detto scusate, che non volevo. Detto che è un'opera psichedelica questa. Mamma mia, aspetta, è diventata la vecchia gufo. Ah, vedi. Colpo vedi. Di scena, la vecchia era il gufo psichedelico. Anche morphing, capito? Di alto livello. Fine. The end. La fine quindi era che quindi quello era il era il sultano. Esatto, non era il sultano. Non era la vecchia. Esatto, la vecchia. Se il sultano sa che gli ha detto che è una vecchia, te viene a tagliare le mano, Decapitata minimo. E niente, brutto anche il The End, brutto anche i titoli di coda. Ma io ho detto, per me c'è cosa? Ma no. Poi sta cosa qui di contorno qua. No, raga, cioè, secondo me c'è un'intenzione in tutto questo. C'è un'intenzione. Ragazzi, se voi scoprite qual è l'intenzione, fatecelo sapere. Io sono molto curioso, onestamente. Anche io, sì. E non è ancora finito, ancora esatto, parlo. C'è anche no? Il post credit, credo. Quindi. Ha fatto 97 punti su 100, pensa quanto ha rosicato. Esatto, adesso va a sapere quali sono i tre punti. Su me con l'orso. È l'orso, sì. Comunque stanno tutti in chat, mi fa ridere, insomma. Dice, adoro la vostra ironia, dice Simone. Questa avanguardia futurista vintage, dice Cuciniere. Che cosa brutto, ma cos'è? Attacco epilettico in arrivo. Esatto. Intenzione lassativa. Cioè, sono tutti schifatissimi, giustamente. Quindi questo sì è il punto basso, onestamente, della Cinemaware. Siamo tutti d'accordo, direi. Abbastanza, sì. Anche se devo dire pure questo dopo non è che. No, in confronto è un capolavoro. Sì, perdonami. Confronto è un capolavoro, sono d'accordo. Però. Insomma. No, sai che mi sta a far male l'occhio destro con il momento del gufo. Il gufo quello vecchio. L'hai accusato il gufo. Mi sono giocata l'occhio destro. Intanto dalla chat continuano a dire. 97 su 100, lo puoi battere Deb? Niente, vogliono che gioco a sto coso. Assolutamente. Io mi sono già giocata a Nocchio in questo momento. No, ma la scena più bella è quella che lui combatte con Superman e sembrano due epilettici praticamente. Combatte con Superman, ha fatto ridere. Comunque adesso, come possiamo vedere qui, The Three nell'87 Stooges. Ci stanno i The Three Stooges, che sono i tre marmittoni. Marmittoni, mi stavano venendo i tre fessacchioni, mi stava venendo. Guarda, io te devo dire, i tre marmittoni. Mai visti, eh? Cioè, li conosci? Neanche io. Conosco solo che esistono perché anche in vari telefilm esce fuori i tre marmittoni, ne parlano spesso, quindi negli Stati Uniti ha fatto proprio successone. Sì, sì, sì. E era la roba in bianco e nero, mi sa. Però vedi, poi c'è anche a colori, quindi su me l'hanno poi rifatti più volte. Questa è la versione più moderna. E credo che la Cinemaware si rifaccia proprio a questi, perché all'inizio del gioco c'è questa immagine qua, che adesso vedremo comunque. Anche se che io però non ho, cioè, so che esiste perché, ripeto, nei telefilm americani spesso parlano di questi tre marmittoni qua, questi qua. Sì, sì, no, beh, li conosco, però veramente non penso di non aver mai visto niente di questo. Devo dire che, allora, anche questo è il classico. Allora, qui secondo me Cinemaware ha già raggiunto un certo tipo di popolarità, perché qui già stai parlando di un lavoro su licenza, per quanto possa sembrare strano, poi alla fine comunque in America comunque si ragionava così. La cosa bella è che questo gioco secondo me ha delle intuizioni che poi vedremo successivamente. Una è proprio questa, perché uno dice, come Defender of the Crown, no? Esatto, infatti ieri io l'ho provato per la prima volta nella mia vita e parte il gioco e dico, ma come Defender of the Crown, che cazzo, cioè, ho fatto no, non è quello. Perché te fanno la scena comica già loro, no? Dicono, credevi che era Defender of the Crown, e invece ti abbiamo turlupinato praticamente, perché invece hai i tre marmittoni. Allora, la domanda che ti faccio è, non ti ricorda un po' l'intro di Monkey Island 2? Ah, bella, il fatto che camminano da di lato i personaggi. Comunque che c'è l'elemento di disturbo che va a rovinare l'intro, in qualche maniera. Qui me l'ho giocata all'occhio destro, ve lo giuro. No, non sto da fastidio. Fanculo al gufo vecchia. Vedi l'immagine che dicevano? Esatto, sì. Dei tre marmittoni, questa qui che abbiamo visto poco fa, insomma. Eccola qui. Che quindi è preso da questa versione qui, insomma, esatto. Che poi non so se è l'ultima, sa, più moderna. No, penso che sia sì, quella più classica forse, cioè, perché proprio lo stile si vede che è proprio che riprende dallo stile black and white, no? Quindi però purtroppo non c'ho proprio elementi in merito, perché non è una cosa che, a parte che penso che non l'avrei mai potuto rivedere, perché mi sarebbero stati sui coglioni proprio, perché se basandomi infatti su... se tu ci fai caso, questo qui c'ha i capelli di Scemo più Scemo di Jim Carrey, quindi su me Jim Carrey ha preso i capelli di questo per fare Scemo più Scemo. Ma può essere pure, sicuramente. E io già Scemo più Scemo non ho mai sopportato, penso, quindi questo, se è tratto da questo Scemo più Scemo, direi che non è la comicità che piace a me, insomma, quindi... In generale, comunque, se consideri che sono citatissimi, insomma, in generale nelle varie opere anche televisive americane, alla fine citatissimi no, ma comunque sono citati diverse volte, evidentemente hanno un'importanza, un impatto nella loro cultura. Io purtroppo non so che ci sono stati anche portati in Italia, perché appunto sono stati tradotti come i tre marmittoni, che insomma voglio dire, però non ho mai visto niente. Tipo, la curiosità mi è rimasta anche, può essere pure che magari una volta gli ado a guardare. Una possibilità, yeah, dai. Esatto, anche questo è un gioco multievento con alcune intuizioni. Questo è tutto minigiochi praticamente. Sì, sì, sì. Tutti i giochi. Mi ricorda un po' California Games del Commodore 64. Devo dire. Vabbè, aspetta, un momento, parliamone. California Games è un gran gioco. Era figo, sì, sì, certo. Però ho capito, il senso era quello, no? Il fatto di tutte cose che completamente sconnesse. L'unica cosa è che c'è questo plot narrativo generale che loro devono raccogliere sti soldi per non far chiudere un orfanotrofio e fanno sì, cose. Sì, perché c'è, vedi, il cattivone, il King of Chicago de prima, perché è lui, vedi, lui. Si autocitano nei giochi. E il King of Chicago de prima che dice, oh, mi pagate o chiudiamo l'orfanotrofio, insomma, cosa tipica anche come cosa. No, ecco, quello che fanno varie gare, tra le quali la gara dei torte in faccia, che è questa qui, con dei ricconi. Che è una stronzata. Cioè... Non lo so perché quei ricconi fanno le gare dei torte in faccia, però. Ieri come minigioco ho provato, mi è uscito proprio questo delle gare dei torte in faccia con i ricconi. Non mi chiedete il perché, non ne ho idea. Sì, se voi avete visto il film, la serie, quello che è, fateci sapere perché fanno le gare dei torte in faccia con i ricconi, perché non lo so. Sì, che poi praticamente tu devi fare tutta questa serie di minigiochi per appunto accumulare soldi, poi li accumuli a secondo se vinci o non vinci i minigiochi. I minigiochi, se non mi sbaglio, dovrebbero essere casuali. Cioè, nel senso sì, che. Sì, cioè, quindi questo qua, ho visto proprio ieri, no? Questa è la versione DOS, per farvi vedere quanto sono brutte le versioni DOS in confronto a quelle Amiga. Che questo è un po'. Si muove da solo e poi si ferma. E a seconda di quello che ti esce, quindi c'è, che ne so, la gara, oppure prendi i soldi, oppure perdi i soldi, oppure te ciacchi in dito. Non so che vuol dire ciaccasse in dito, non ho capito. E quindi a seconda di dove si ferma randomico c'è il minigioco poi. Esatto. Quindi se succede così. Quindi tu manco fai niente, cioè è casuale. Tra l'altro questo gioco è anche ricco, e qui diciamo che entriamo un po' nel, forse nel primo caso riguardo Cinemaware, è pieno di digitalizzazioni, cioè quindi praticamente delle voci, delle frasi, insomma dei piccoli suoni ricollegati ovviamente ai personaggi, e che ovviamente si sentono durante il gioco a casaccio, insomma un po' randomicamente. Quindi alla fine tipo c'è il momento in cui tu fai la corsa dentro l'ospedale, che praticamente a seconda di quello che ti dirà addosso si sentono le urla o la battuta, le cose dei tre personaggi. Devo dire, insomma, alla fine carino, perché alla fine rispetto a Sinbad, vabbè, diciamo confronto a Sinbad tutti i giochi sono belli, esatto, però appunto però è un modo per risollevarsi anche quello, cioè nel senso pure nella mediocrità poi alla fine comunque è sempre meglio del peggio, insomma questo è. E ci sono anche queste immagini qua durante il gioco, quindi immagino prese proprio dal telefilm, quello che cacchio è non lo so, con ad esempio il primo piano di questi che stanno così durante il gioco, mentre ci sta questo che corre. Ieri me ho visto. Sì. Ci sono alcune scene tratte dal film, telefilm, ripeto, quello che è noso. Quindi ci sono proprio scene prese e messe qua, diminuite di qualità, insomma, e portate sul gioco. Sì, sì, sono più, più digitalizzazioni che altro, insomma. Poi alla fine, devo dire che, non lo so, cioè me lo ricordo. Però non è che mi ci sono mai impegnato più di tanto per portarlo a termine, insomma. Però quando ci giocavo ogni tanto mi divertivo, e comunque ribadisco che a me sempre faceva impazzire sta cosa dell'idea delle intro cinematografiche, che era una cosa che proprio mi piaceva, insomma. Vabbè, è stata un po' una fissa mia, quindi alcuni giochi erano carini, altri un po' meno, come tutte le cose multi evento, alcune cose sono più riuscite tecnicamente, per esempio quello della corsa è un po' uno sbrocco, cioè nel senso alla fine dà un po' fastidio. Quello delle torte non si capisce, cioè dei spigne, perché cioè qual è il senso di quel gioco? Io non capisco come si vince, chi vince, chi spinge di più, che non so. Hai capito? Cioè lì spinge a manetta con tutti i suoni loro che strillano e lanciano le torte, non so. Non però so. Vedo ci sono dei bacini con donne alla fine, quindi a noi ci interessa sempre quella, esatto, sì, comunque sì. Comunque del base. Allora Franky dice: oddio, che ricordo quando vedevo History Stooge su Amiga, sbavavo, vedi? Quindi lui lo conosce il gioco. Sì, Amiga. Sì, beh. Erano comici un po' triviali. E invece Simone dice: vengono citati un paio di volte nel film Cortocircuito. Ah, pensa pure lì li citano, pensa un po'. E poi mi ha detto: povera Debbie, perché mio occhio destro è morto dopo il gufo. Quindi vediamoci un attimo anche l'intro dei tre marmittoni. La musica è carina. Sì, sì. Penso che sia ripresa dal tema del film, del telefilm. Non ne ho idea. Franky, faccio sapere se conosci il film. Ah, ecco un'altra intuizione. Sì, la prima parte mi ha ricordato Monkey Island 2, qui mi ricorda Indiana Jones. Perché comunque c'è questa cosa dell'intro con i cartelli che scorrono su Indiana Jones. Invece di essere che esatto. Palle. Invece di essere i binari, esatto, cioè nel senso invece comunque di essere qua i profumi esatto. Invece di essere i binari sui cartelloni. Però anche qui c'è gente che si sbaciucchia, quindi insomma tutto sommato. E lo sbaciucchiamento è mancabile. Beh, la sera da cinema, guarda, come fai? No, però ecco. Poi vuoi passarla. Questa che hai polpette vegetariane e niente. E poi impazzisce. Ok, impazzita che polpette vegetariane. Allora, non comprate le polpette vegetariane, se fate qua la fine lì. Pubblicità controproducente. Se no poi vedete le cose tipo la vecchia civetta là. Ecco, quindi, cioè qui ovviamente siamo... King of Chicago, eccolo, è lui. Vediamo, qui lo stile è più caricaturale ovviamente, però la grafica è carina. Cioè, nel senso... molto molto è patatina, sì. Quasi un patatino like, però è molto curata, molto colorata, quindi insomma si vede sempre la maestria che a volte svanisce tipo in Sinbad, però qui è ritornata, insomma è tornata la capacità, esatto. Cosa che prima non so che fine aveva fatto, l'hanno persa per strada. No, ma secondo me farò una ricerca su quella, poi ne riparleremo. Faremo uno speciale unicamente su Simba, esatto. Quindi preparate gli occhi. Esatto. Però lo faremo solo con fermi immagini per non compromettere. Sì, nel momento in cui sappiamo che c'è il momento ultra psichedelico per non rovinare gli occhi di tutti. Esatto. Metto pausa, esatto. E basta. Io queste musichine sono molto di Pix. Tra l'altro sta musica c'era su un gioco per VIC-20 che io adoravo, che... per quello dico, sono molto tipiche, sono molto usate queste musichine, che tu praticamente governavi un sorcio che doveva correre dentro sto labirinto e inseguito da dei gatti e dovevi mangiare dei formaggi, e poi quando i formaggi, cioè i gatti ti stavano per avvicinare, tu sganciavi la puzzetta e quelli rimanevano fermi per qualche secondo. Bello, bel gioco. Vedi, è uscito in maniera randomica l'evento, no? Esatto. E quindi mo vanno a fare l'evento, che è l'Oity Toity Club. Che succederà all'Oity Toity Club? Che apre il King of Chicago de prima, praticamente. E vedo nel primo piano il contratto, no? Quindi... servi le torte agli invitati. Che è una tovaglia, non è un contratto, è una tovaglia gigantesca. Che è il momento detto, questo è servire le torte agli invitati, praticamente, tirarla in faccia. E questo è il gioco. Quindi se li becchi sopra, vedete i dollari che aumentano. Se te beccano tipo 5 volte, è perso. Sì, la domanda solo è... che questo c'ha il dito più veloce del mondo e quindi loro non fanno in tempo a fare niente. Ecco, uno è riuscito a tirare una torta, ma l'ha tirata male. Quindi sì, questo è il gioco. Sì, sì. La domanda è, cioè, in che consiste l'abilità? Cioè, come faccio a parlare? Essere rapido. Cioè, essere devi solo spingere. Cioè, non è di prendere la mira o cosa. Devi solo spingere. Okay. Devi spingere. Hanno fatto $740 a torta in faccia, voglio dire. Me coglioni, oh. Me coglioni, ci vado pure io a tirare torta in faccia. Infatti. Qui c'è il go-kart, però stanno in ospedale, quindi non lo so. Ah, quello dell'ospedale è carino perché... Ah sì sì, ho visto ieri, quindi praticamente cambia la prospettiva dall'alto questa volta. Devi fare sta corsa. Con l'infermiera che perde le medicine, credo, e tu devi evitare le medicine, barelle e cose. Quello che rotola poi. Con i go-kart abbiamo visto fuori. Con i go-kart, esatto. È tipico in ospedale con i go-kart, no? E se voi sentite, ci sono i suoni digitalizzati di loro che strillano, dicono cose. Sì. Sì. Gli dice mortacci, esatto. E poi esatto, che poi sono sempre quei tre effetti sonori, però insomma per l'epoca era tanta roba. È un mortacci all'infinito, esatto. Secondo me. Niente, hanno preso quello che ha la carrozzella, è finita, insomma, così. Mi sa che hanno perso i soldi sta botta. Hanno ammazzato il vecchietto in carrozzella, niente. È andata così, è andata male. Vabbè, qui non c'è una vera e propria storia, quindi mi fregano soldi invece da un bancomat. Quindi è GTA ante litteram praticamente. E qui ci sta il trivia anche, e poi ci sta altra pubblicità. Esatto. E ci sta anche il momento trivia, vedi? Quindi anche il momento quiz. Che devi sapere, perché insomma, giustamente. Che sarà un quiz magari sui marmittoni, e quindi poi, chi sa. Poi il bello è che abbiamo beccato tutte le pubblicità che non si skippano, quindi. Ovviamente. Quella è giusta, sarà la B o la C? Gli ha dato un pugno in faccia, mi sa che ha sbagliato, insomma, non lo so. Vabbè, ma come. Cioè... tutto... comunque questo sembra quello dei fichi d'India, che poverino non c'è, brava, più. Brava, ricorda, brava. Un po' mi ricorda. È vero, sono d'accordo. Mi ricorda un po'. Ho visto dei film ma non mi piacevano, dice Frankie. Quindi Frankie qualche film dei marmittoni qua l'ha visti. Ah, vedi, ti può anche capitare il King of Chicago come evento, non so che succede. Era bello se potevi giocare a King of Chicago, come succede a Maniac Mansion, esatto. Dove ci puoi giocare dentro a coso, a Day of the Tentacle, capito? Questo è graficamente meno un post impressionista rispetto al precedente, dice Maria. No, questo graficamente è quasi un patatino like. Sì, questo è molto carino. Si menano fra di loro, non lo so perché. Non lo so, penso che... certa, decidono di menarsi fra di loro. Penso che sia una cosa tipica della serie. Della serie. Film. E queste, vedi, sono le immagini con le capocce un po' appiccicate male, secondo me. Ecco, questo pure è un po' psichedelico comunque il tutto. Beh, questo abbastanza. Cioè, in fronte a Sinbad no, però è un po' psichedelico anche questo. In pratica le pubblicità ci stanno salvando la vita, dice Cuciniere. Sì, perché ci interrompono un attimo dall'essere psichedelico. Questo è il momento corsa. In cui corre. Sì. Corre e si pia i pali in faccia. E poi ci sono i cani, ci sono i water, non so cos'è quello. Allora, per spiegare un po' il gameplay, praticamente tu devi andare sopra e sotto a seconda dell'ostacolo. E salti. E qualche volta devi saltare, insomma. E ok, quindi devo dire che non è minigiochi di un certo livello. Sì, devo dire che non, a parte che c'è cioè la basicità ovviamente del gameplay, però non è così immediato. Perché come cioè magari ovviamente la cosa che tu devi saltare ti viene da spostarti sopra, cioè per ditte. Quindi alla fine devi un po' estraniare dal. E poi comunque vedi queste immagini sono molto molto belle. E poi che. Poi si sono fatti altri $450, che voglio dire. Cioè, e no. Poi vedi si ripete, mo ci sono di nuovo le torte in faccia, di loro che semenano. Beh, quindi... quel gioco dove hanno guadagnato più soldi, ma alla fine. E torte in faccia conviene, $750. C'è un finale sto gioco, c'è un finale. E questo cucina, butta con una mano un po' inquietante, non so che sta cucinando. Cornflakes con mostri dentro, cos'è questa cosa? No. Il minigioco è prendi cornflakes, cos'è questa cosa? Non lo so. non lo so cosa stiamo vedendo. Sono un po' così, un po' senza parole. E per prendere i cornflakes hanno fatto $300, che voglio dire. E quindi alla fine c'è loro che portano i soldi e hanno salvato l'orfanotrofio. L'orfanotrofio e tutti i bimbi, tutti contenti. Però in un'altra anteprima di un gameplay c'era una pomiciata tra donne, scusate, con le donne. E non, eccolo, vedi qua. Best ending, fammi vedere il best ending un attimo. Perché nel best ending ognuno di loro c'ha una donna. Quindi fatemi capire, dopo il McDonald's lo vedremo. E niente, tutta roba da magna comunque. Esatto. Cioè, questi ci vogliono mettere voglia di fare lo smoothie di mezzanotte, esatto, tra un po'. Le torte sono appena finite. Le torte sono finite. Ma poi da dove escono fuori ste donne? Questo è il fatto. Mo speriamo di capirlo. Grazie ragazzi. Ah, sposate le mie tre figlie. Ah, come ringraziamento vende le figlie. Ah, vedi che belle cose. Allora, io ho capito come funziona. Cioè, tu metti le cose, ti portare $10,000. Se gliene porti 12,000, con 2,000 in più te compri le figlie, praticamente. I bei messaggi di una volta, esatto, capito? Esatto. Grazie, ci avete salvato il culo. In cambio vi do le mie figlie, esatto, praticamente. Esatto, che hanno bei tempi, molto voce in capitolo. Messaggi, eccole qua, tutte già innamorate, vedi? Quindi ecco, hanno avuto la scelta, hanno potuto scegliere della loro vita queste tre donne e si sono attaccati a sti tre cosi. Bene. Questo è un finale buono, ricordiamo. Ma poi che culo, gli ha detto proprio bene allora. Ah, guarda, c'è pure la foto del matrimonio, uno più allegro dell'altro, praticamente. Oddio, però certo quella di sinistra è un po' strana, eh? E sì, però loro sono inguardabili tutte e tre, quindi... Devo dire anche... Quindi allora è andata pure bene, c'è da dire. Oddio, ma è andata bene a tutte e due. Questo era il finale buono, quindi la madre che in cambio dà via le figlie in sposa a questi... Vabbè. È il finale buono. È una cultura. Altri tempi. Infatti Simone è rimasto no comment da tutto ciò. Va bene, passiamo oltre e torniamo adesso a un gioco famoso, un gioco serio, che probabilmente avrete giocato o che comunque conoscete, ossia Rocket Ranger. Andiamo al mio anno, mitico 88, anno stupendo. e esce Rocket Ranger. Simone sicuramente l'avrei giocato. Allora, Rocket Ranger è, diciamo, anche qui gioco multievento con le sparatorie, come dicevi te prima, quelle de... spara bene, spara male, insomma un po' imbinariate e via dicendo. Però devo dire che qui ritorna un po' l'ispirazione da un certo punto di vista, perché comunque visivamente secondo me è veramente un bel lavoro. Si riprende molto ai film di fantascienza, insomma, del sempre degli anni 50-60. È ambientato in una versione alternativa della Seconda Guerra Mondiale, se non mi sbaglio, boh, manco mi ricordo. Però comunque, praticamente, dato che i nazisti stanno vincendo la guerra, se non mi ricordo male, a un certo punto a sto scienziato, a sto tizio, gli arrivano degli oggetti dal futuro, tipo. E che lui con questi oggetti del futuro praticamente ci si costruisce la sua identità di Rocket Ranger, perché il Rocket Ranger è lui, cioè una sorta di supereroe con un jetpack dietro che è una pistola laser, insomma roba avveniristica, deve combattere ovviamente i cattivi fino a risolvere l'enigma. Se non mi ricordo male, qui su sto gioco ci stanno i nazisti che hanno già una base sulla luna, e poi ci sono pure gli alieni a un certo punto, quindi sì, è come quando fate... E ci sono anche gli alieni nazisti. Esatto, gli alieni alleati dei nazisti, quindi alla fine se tu... E quindi sono alieni nazisti alla fine, vedi? Esatto. Ti dico ragione. Quindi chi diceva che alla fine la Quantic Dream antelittera, ma c'avete ragione, perché a un certo punto questo gioco ci hanno messo di tutto dentro... Però devo dire che è figo visivamente. C'è una bambina indaco, una certa, che non so qua. No, non credo, ma alla fine si sbaciucchia con una, chiaramente. Infatti si vede anche mezza tetta qua, attenzione. Esatto. Comunque l'immagine veramente tipica di Rocket Ranger, che magari conoscete anche solo per queste immagini, è lui che corre, Pepiare in corsa per plana praticamente, no? Quindi è questa immagine tipica di qui, di lui che corre, così, continua a correre, vedi, così, così, e sì. Poi praticamente inizia a planare. Sì, lì è il Superman che c'è, che qui ci sta, credete meno, qua secondo me dà una graniata brutta. Però tendenzialmente, ecco, fa un po' più così, capito, un po' così. Sì, questo lui è il pari in corsina. È la scena del decollo, che tra l'altro in una cittadina che potrebbe essere benissimo quella dei It Came From The Desert, se tu vedi alla fine un po' lo stile. Ti ricorda un po' quelle case basse. Questo sfondo qui, se tu ci metti un po' più di deserto, un po' più non così chiaro, c'è sta secondo me dopo, con un tipo in primo piano qua che te parla più o meno, e lo sfondo più o meno è questo. Eh sì, sì. Secondo me qualche, un richiamo c'è in qualche modo, cioè, se non altro... Un riutilizzo, cioè più che altro. O più che un richiamo, un riutilizzo, esatto, sono d'accordo, sì sì. No, devo dire che stile fumettoso, insomma fumetto d'avventura... insomma anni 60-70, se vai a vedere alla fine lo stile grafico è carino, il gioco è, cioè, voglio dire, è comunque tra i più famosi, diciamo, forse quelli tra, insomma, del maggior successo di Cinemaware. E da un certo punto di vista, anche se ovviamente parliamo sempre dei multievento che alla fine sono sempre un po' i stessi, devo dire che ha buona ragione, secondo me questo è un bel gioco, cioè un gioco che insieme a Defender of the Crown ti conservi più affettuosamente, e anche se questo è ovviamente molto più articolato, molto più complesso, cioè qui già siamo proprio su un altro livello rispetto a Defender of the Crown. E poi vabbè, lo stile visivo, grafico, ti devi piacere o non ti devi piacere, certo, ribadiamo, l'effetto wow è oramai svanito da anni. Da questo punto di vista, però insomma il gioco sembra di giocare veramente un film d'avventura, azione, un po' supereroistica degli anni 50, insomma, quindi alla fine è divertente. Beh, l'effetto wow sì, è stato, come hai detto, The Defender of the Crown, però questo ad esempio, secondo me l'effetto wow sta anche nei personaggi, insomma sono belli. Sì, sono fatti. Vabbè, qua non si vede, vabbè. Però vedi qua quanto sono belle loro, sono fatte proprio bene. Queste corde messe proprio, guarda così, per tirare fuori ancora di più il seno di questa, tutto studiatissimo. Insomma, sono un po' zozzi questi di Cinemaware. E qui vediamo lei, insomma, che si sta perdendo anche un po' dei capezzoli, no? Quindi, sono un po' così questi, sì, della Cinemaware. No, diciamo che era lo stile, negli anni 70 i fumetti erano così. Cioè, nel senso... non tutti, ma insomma in buona parte erano così, tanto anche quelli italiani, no? Però vabbè, questo poi entrava in un altro tema. Però devo dire che comunque non è male. Poi lo vedrai anche, magari se facciamo vedere un po' dei filmati, oltre all'intro, ovviamente. Sì, boh, andiamo al filmato, e questi sono i combattimenti. Questa visuale è un po' obliqua, hanno scelto per i combattimenti. Allora sì, questo è uno dei combattimenti che ti ricorderà un gioco che hai giocato recentemente, tra l'altro. Però non era obliquo il combattimento. Non era obliquo, ma è abbastanza brutto uguale. Sì, la stessa simpatia dei combattimenti, insomma. È abbastanza brutto uguale. Però diciamo cambia almeno la visuale. Vedi qui fa proprio pugni malissimo, qui lo sta ammazzando male. Però sì, ricorda molto il combattimento che abbiamo tanto amato in Indiana Jones. Vediamoci un po'. Come? No, dico, se lo vedi, in effetti è brutto, veramente è brutto uguale, perché cioè, le meccaniche sono proprio le stesse. Cioè, nel senso, è proprio... Io sì, ho visto, insomma, che il movimento era quello. Esatto. Così i pugni. E da Indiana Jones, oltre a questa cosa dei combattimenti, prende, tra virgolette, perché ovviamente siamo sempre parlando di due cose diverse, anche una scena che si ambienta in Messico. Con il tempio Maya, praticamente, quindi insomma. Ho visto una certa, c'è un tempio. Infatti, mi sono chiesta come sono finiti là. Però poi una certa non mi sono fatta troppe domande. No, non farti domande. Meglio non farmi troppe domande. Quindi 1940. Ah, stavo a leggere adesso. Vedi la sofferenza. Questo magari mando un po' avanti, un vorrei un po' nei coglioni, quei simboli. Ma non credo, perché sta già su YouTube, quindi... Anche perché poi ho giocato pure Indiana Jones, pure lì c'erano le bandiere cose, però esatto. Non so mai. Vabbè, comunque diciamo vabbè, che... Vabbè, quindi Hitler ha conquistato l'Europa, Esatto. E vedi, guarda un momento istituto luce proprio. Questo è proprio un momento istituto luce, esatto. Vedi? Manca l'aquila con scritto luce sotto. E fa, vedi, Cinemaware Corporation Presents, così in bianco e nero. Manca un po' la voce Cinemaware Corporation, un po' così. Cinemaware Corporation. E beh, diventa tutto a colori e arriva Rocketman, insomma. Eccolo qui, pa pa pa. Sì, dai, è una tamarrata. Anche questa la musica, insomma, dai, non è male. Quindi è Superman contro i nazisti, più o meno, da. Sì, beh, no, Superman no, perché Superman è un supereroe, lui in realtà non è un supereroe. Vabbè, però dice wanna be Superman, ma sì, esatto. Esatto, a lui gli vengono dati degli strumenti, un po' come a Ralph Supermaxi eroe. Batman. Cioè strumenti. Cioè, e succede esattamente come su Ralph Supermaxi eroe. Cioè arrivano qualcuno che gli dà dal futuro, da alieni, non lo so chi, comunque gli danno delle cose e lui si organizza. La sua missione è quella di salvare uno scienziato e la figlia dello scienziato, che ovviamente è quella che poi ti sbaciucchi alla fine. Ovviamente, e la figlia dello scienziato soprattutto. Perché te la devi sbaciucchiare in qualche maniera. Lo scienziato sti cazzi, insomma. Tra l'altro stavo leggendo che i nazisti stanno sulla Luna perché hanno trovato un materiale che si chiama il lunarium, che praticamente... Hanno sbarcato il lunarium. Esatto. Che praticamente indebolisce le menti di tutto il mondo, e quindi loro riescono a conquistare, schiavizzare. E infatti le lunarium bombs, vedi? Vedi. E sì, e quindi lui deve arrivare fino sulla Luna e sgominare i nazisti e baciarsi con la tipa. Che poi vedi, puoi scegliere, vedi, Egitto, cose, dove andare a sconfiggere si stronzi. Eccolo Piara in corsa. Ma poi scusa, a quella velocità è tipo i polmoni che suscita a bocca. Comunque è It Came From The Desert. Io continuo a ribadire che per me It Came From The Desert è uno scenario. Poi, sì, abbastanza. Secondo me c'è un collegamento. E poi guardate questa scena. Guarda come vola. Jetpack che. Cioè, allora, questo altro mi che Superman. Mi ricorda tantissimo la serie televisiva. Indiana Jones quando fa il viaggio da una parte all'altra. Non solo. Mi ricorda anche tantissimo la serie televisiva di Superman, quella in bianco e nero. Non so, tu sei mai visto? Io l'ho vista, no, l'ho vista, perché no. Sono un po' più vecchio di te, eh? E quindi c'era questa serie di Superman, e quando volava facevano vedere sto Superman che si muoveva tutto per dal senso che volava, insomma. E questo è uno dei minigiochi, anzi forse uno dei principali minigiochi, che diventa uno shooter dove invece dalla navicella c'hai lui che spara cose, ma come tutti sta sparando a dove stanno Indy e il padre, praticamente. Esatto, stanno facendo danno al dirigibile. in realtà è per al dirigibile dove stanno Indy e il padre. È per quello che tu non volevi, non riuscivi a scendere dal dirigibile, perché c'era lui che sparava. Hai visto? Poi c'è il coso, il braccialetto che ricorda un po' quello di quel Pip Boy. Hai visto? C'è un po' questa cosa, questo monitor. E questo è, insomma, sono tutti questi molti evento così, fatti meglio rispetto a tanti altri giochi. Questo è il tipo di essere. E poi ne parla, qui si sente l'audio. Si vede, si sente bene comunque. Sì. Allora, qui bisogna capire. What do you mean? Vedi? Qui bisogna capire se è una versione del in CD-ROM magari fatta successivamente o se è la versione Amiga. Perché io non so, è Amiga. Io non me è lo ricordo. Amiga, vedi, Amiga Long Play, okay. Rocket Ranger. Io non me lo ricordavo che parlava di avere l'età, però è vero pure che ancora non ho comprato l'espansione memoria e quindi capace che... Però, forse fatto nel 2005 per RAG, no, forse quando l'ha girato, perché nel 2006 l'ha caricato. Quindi va a capire. No, beh, se c'è scritto l'Amiga Long Play è la versione originale. No, adesso sì, quella lì. E quindi vabbè, abbiamo visto, insomma, lui che vola, lui che vabbè, spara. Pure qui c'è una parte strategica, come insomma, relativa. Però lui che piari in corsa e niente. E lui poi, che piari in corsa e va a 2000, a te ti piace. Sì, a te ti piace. Me simpatico. Ecco. Guarda che i puntini come prende. Vedi il deposito dell'acqua, it comes from the desert. Tra l'altro è la stessa scena che si ripete. Cioè, quanti depositi dell'acqua c'hanno questi? Scusa, fammi capire. No, perché stanno appunto nel deserto, come hai detto te. E poi c'è il combattimento obliquo. C'è il combattimento, e come vedete è brutto, brutto forte. È obliquo. Tra l'altro, questo c'ha due finali. Perché se tu muori, si vede la bandiera nazista che viene appesa praticamente sulla Casa Bianca. E se tu vinci, c'è il finale buono. Insomma, vabbè, quello giusto, quello che dovrebbe essere, insomma. Capisco. No, questo combattimento e è brutto. E si danno belle botte. Danno le botte e poi c'è la sparatoria, che è sempre quella là come... E c'è il pezzo bianco e nero quando apre qua, non so perché in bianco e nero, sempre un momento istituto luce. No, diciamo. E le transizioni, quando finisci la sessione, cioè tu hai finito, hai ucciso tutti quelli che devi uccidere. Ah, guarda, questo è terribile. Ma è notte, sarebbe? Sì, perché è tutto sto nero? È notte. È notte. E quindi è notte e sulla terra si vedono soltanto i cannoni? Adesso non si vede nulla? Sì, vabbè, perché lui sta... È ambientato nel 40, la luce esisteva comunque, cioè nel senso... Vabbè, ma non sappiamo... C'è un lampione, non c'è una luce, non c'è niente. Perché se c'è la contraerea... È il deserto, perché it came from the desert. Ma perché la contraerea, mica mettono i lampioni intorno alla contraerea, cioè deve essere... Non ci stanno luci, però sono illuminatissimi i cannoni, non lo so, è strano. Perché non so capace, ma è sempre considerato i limiti. E vabbè, lui è arrivato qui dove ci stanno sti razzi che vanno sulla luna, probabilmente lui sta andando sulla luna. Ma lui va sulla luna così, col suo jetpack, quindi respira così? No, con uno di quei due missili che hai appena visto là. Ah, pensavo col jetpack, diciamo, ma no. Sì, come respira? Dico, respira così, capito? E poi scusa, con jetpack... Qui va a 2000. Sì, non perché lo so. Va a 2000? Non lo so, l'ho visto pure io sto video. Però velocizzato lì. Penso che sia stato velocizzato perché è tutto uguale. Perché si è rotto le palle, esatto, probabilmente, sì. Una certa, perché come potete vedere il gioco è molto vario. Ecco qui il momento in cui poi ci sono gli aztechi, roba simile, non so che cosa sia. Vedi, va in Sud America. Esatto. E va nei templi, così. Così. Che sembra un castello di sabbia. E poi c'è Polly the Parrot. Heart of the Jungle. Il cuore della giungla. Simone dice Superman 64. Ah no. Oh madonna, ragazzi. E Assolfo chiede: ma questo gioco è tratto dal fumetto degli anni 50? C'è un fumetto degli anni 50 proprio di Rocket? Questo non lo sapevo. Se esiste, evidentemente sì, allora. Evidentemente sì, anche perché lo stile è proprio fumetto anni... Sì. 60, 70. È comunque il momento finestrelle, spari. Esatto, esatto. Finestrelle, come vedi, cioè alla fine, che è quello. Come alla fine i giochi loro sono tutti uguali, cioè fondamentalmente. Tutti i minigiochi che si ripetono all'infinito, cambia la location. Questo è un po' come più stiloso. Detto al minuto uno da live praticamente. Sì, questo è un po' più stiloso rispetto agli altri, secondo me, perché comunque questo è fatto bene sto gioco, cioè Anche sì, no, è bella la scena di lui che piari in corsetta. E lui sta sulla luna. Sì, sono donnine mezze nude sulla luna, non so perché. Perché te lo spiego io. Perché sempre lo stivale, poi sempre fino a qui che fa effetto pantalone. Perché, non so perché i nazisti, usando il lunarium, usano le donne come schiave per estrarre il lunarium stesso. Perché dentro le donne c'è il lunarium? No, no, lo estraggono come... Ah, le donne estraggono il lunarium, esatto. Ah, ok. Ok, che poi sono tutte gemelle, per quanto vediamo. Sembrano tutte poliziotte, praticamente. Quindi ammattiste poracce che, poverine, c'erano sotto il controllo dei nazisti. Poverine, diciamo, povere. O loro o te. Vabbè, ma supereroe di merda, doveva aiutarle, doveva trovare il modo di liberarle. Ma lui è americano, gli frega, lui... Cioè, è l'obiettivo... Ma muove! Oddio, che è sto cosa? E questo è l'alieno che è amico dei nazisti. Oddio! Quindi è tipo una sorta di boss finale, praticamente. Ma è uno scarrafone, cos'è? Lo scarrafone è bella mamma soia. Ecco qua. Eccolo, guarda come ci guarda, ti è... Mamma mia, come ha capito tutto Davide. Sta da rosicare, eh? E poi sparisce. E poi ha fatto pure il teletrasporto. Sparisce così. Tu bi continua, che non continua, è vero. Vabbè. Che non è vero. È vero, non ha continuato. Continua a fa porcate, probabilmente. Esatto, e poi qui mi sa che fa vedere il finale, quello cattivo, che se tu muori... Mette la... Vabbè, ma noi ci è piaciuto il finale pomicione. Infatti, il finale pomicione. Ci accontentiamo del finale pomicione. Allora, Astolfo dice: si chiama The Rocketeer il fumetto. Ah, il personaggio si chiama Rocketeer e sembra quello del gioco. Vabbè, allora magari è ispirato magari a quello. Devo dire, mi informo e vi dico, perché devo dire che non me lo ricordo, non sono esperto per quanto riguarda il discorso dei fumetti. E poi Simone dice: secondo Wiki, tra il 91 e il 92 l'Adventure Comics, marchio della Malibu Comics, pubblicò una serie di fumetti in 5 volumi intitolata Rocket Ranger e basata sul videogioco. Però basata sul videogioco, quindi il fumetto è tratto da questo videogioco, questo qui che dici te, a questo punto. Ah, il fumetto che è tratto dal videogioco o il videogioco al fumetto? Non da so. Come ha scritto Simone, mi sembra di capire che dopo il gioco, infatti il 91-92 hanno fatto un fumetto sul gioco. Ah, vabbè. È piaciuto sto Rocket Ranger. Allora, credo. Si vede che evidentemente CinemaWare si è ispirata a The Rocketeer e poi dopo ci hanno fatto il fumetto su Rocket Ranger. Può essere pure, non lo so. Io se vuoi un suggerimento, salterei a pie pari tutti i TV Sports. Sì, diciamo soltanto, facciamo il fatto che hanno fatto questi manageriali, la maggior parte sono sportivi, quindi c'è sia football, c'è basketball, boxing e baseball, che poi boxing e baseball sono gli ultimi, il 92 hanno chiuso. Sì. E quindi sono tutti manageriali di questi sport, quindi tu dici, che ne so, mando quello in difesa, mando quello in attacco e poi tu vedi la scena. E niente, questo è il decay. Cambia lo sport, però alla fine la giocabilità è più o meno la stessa di questi TV sport. Sì, io non l'ho mai giocato, devo dire la verità, però l'unica cosa che io ho conosciuto ieri, quindi no, io li conoscevo perché mi intrigavano anche da un certo punto di vista, però pure qui il problema del gameplay è sempre, cioè, loro hanno fatto in questa serie quello che hanno fatto con gli altri giochi, mentre che gli altri giochi hanno dato un'impronta cinematografica, qui hanno provato a dare un'impronta strettamente televisiva. Quindi alla fine tutto quello che vedi all'interno del gioco è tutto marcatamente televisivo, quindi c'è il presentatore, c'è il telegiornale, c'è l'intervista dopo la partita, c'è tutta una serie di cose che nei giochi di sport moderni sono arrivati 3-4 anni fa. Cioè, alla fine l'intuizione stava in questo, nel fatto di dare un'impronta televisiva o cinematografica alle cose che loro facevano. Poi che i giochi fossero, insomma... Però vedi che non sono persone false, cioè questi si chiamavano CinemaWare, hanno fatto cose che hanno a che fare con cinema, TV, eccetera. Esatto. Quindi, vedi, no, ma loro non sono sviluppatori falsi. No, la loro intenzione era esplicita e dichiarata, quindi... E d'altronde, se no non ti chiamavi CinemaWare, ti chiamavi non so fai giochi. Esatto. Comunque adesso invece andiamo verso l'Oriente, quindi cambia come al solito la zona, il periodo storico e tutto quanto. e sì. Si chiama Lords of the Rising Sun, eccolo qua, questo qui. Giappone, quindi qui gestionale di guerre nell'Oriente. Ecco qua, come potete vedere, tutto l'esercito poi combatte, tutte le zone da conquistare. Che cosa ci ricorda le zone da conquistare? Il primo gioco loro. Esatto. E i vari primi piani dei templi stupendi, dei samurai e tutto quanto, quindi... E poi ovviamente già dalla copertina si vede che c'è la diva mezza nuda, insomma, quindi esatto, altra cosa immancabile. Anche se non so se poi questa cosa ci avrà una rilevanza all'interno del gioco. Ma io spero di sì, che alla fine vedremo comunque, però, non ti dico una tetta, però quasi. Diciamo che loro utilizzano molto spesso la figura femminile proprio come si faceva all'epoca. Comunque come elemento d'attrazione in qualche maniera. Infatti, se tu vedi la sigla del gioco, che è secondo me la più, forse la più stilosa, non la più bella, però la più stilosa e più cinematografica delle intro che loro hanno fatto, cioè ci sono i titoli di testa scritti proprio in maniera cinematografica con il profilo di lei, che bisognerebbe capire chi è sta lei poi, perché non... Penso sia quella con mezza tetta di fuori. Esatto. Che vediamo adesso subito, a quanto, dato che hai tirato subito fuori l'argomento dell'intro. Esatto. Dopo le cucine, prima c'erano i sofà, ci sono le cucine, se stiamo a rifare tutta casa. Esatto. E, beh, sì, quando e non quindi ci perdiamo un attimo, esatto, l'intro, che è questa. Cioè, esatto. Niente, 2 minuti di questa. Allora, diciamo che l'intro è statica, però è stilosa, perché comunque vedete che il modo, lo stile in cui sono scritti i titoli è molto moderno, è molto cinematografico e tutto molto giallo, poi anche forse era una sorta di insulto c'è un insulto implicito del razzismo così a caso, però vabbè, ricordiamo che siamo sempre negli anni fine 80, esatto, insomma, quindi all'epoca non c'erano tutte queste delicatezze, insomma, che ci stanno adesso, quindi. Però permettimi, se tu parli del sole nascente, metti un rosso, un arancione, perché hai messo un giallo? Cioè, il giallo? Perché il rosso è nei titoli, nelle persone in cui l'hanno fatto, vedi? Ah, perché sono giusto. Loro il sole nascente, giusto, i creatori giusto. Del gioco. Va bene. Boom! Così, accetto questa cosa, però vedi l'ego tutta gialla. Accetto questa cosa. Diciamo che mi ha lasciato sempre un po' con la perplizia, diciamo, insomma, però... È perché lei è illuminata dal sole, che sono gli sviluppatori, capito? Esatto, brava. Quindi... Lei con quest'occhio così, questo sguardo, sempre queste labbra un po' così. E... Però poi non c'ha il resto del corpo, lei c'ha solo il collo. Tipo quello prima seduto sulla sedia che c'aveva solo capoccia. Allora, questo è uno strategico, se non mi ricordo male è anche un pseudo in tempo reale. E tu devi scegliere uno dei generali giapponesi che ha l'incarico di pacificare con la violenza il Giappone. Cioè, nel senso, come vuoi fare? Come vuoi portare la pace? Con la violenza, esatto. Ma questa, cioè, poi abbiamo. Insomma, vabbè, non diciamo altro. Diciamo la storia è sempre uguale. esatto. Cioè, ci possono avere i cappelli da texano oppure. Le uniformi siamo da samurai, uguali, da vero, samurai. Siamo sempre tutti uguali. Bravo, esatto. Insomma, quindi questi sono samurai, vabbè, sono generali e devono fare praticamente questa pacificazione. Belli, vedete. Che... tutti di profilo, no? Senti, da davanti ne sanno fare, no. Li fanno di profilo. No, li sanno fare anche da davanti, ma questa è proprio una scelta stilistica, immagino. Sai, la sofferenza. Secondo me il profilo è più sofferenza. Allora, qui c'è meno giallo, ma sempre tendente comunque, quindi io continuo. Beh, però c'è più rosso de che volevi prima, vedi? Qui c'è più rosso. Ok, però rimarco sempre che questa tendenza al giallimento. Vabbè, quindi tu praticamente devi pacificare. Aspetta, però hai visto? Aspetta. Guarda, se scegli uno o l'altro chiude gli occhi. Ah, guarda la finezza, guarda wow. La finezza. Non ha scelto me. Ah, e chiude gli occhi perché non l'hai scelto. Chiude no, gli occhi con delusione. La delusione, perché di profilo è ancora più deluso. Io non l'avevo da mai davanti meno. Non l'avevo mai notata sta cosa. Vedi. Quella è la finezza, però. Quante ne sai? Non l'ho visto adesso. Vabbè, però tu quante ne sai? Tu fai finta che lo sai. Insomma. Io ne so tantissime. Ho scoperto l'esistenza del suo gioco ieri, ma ne so tantissime. Esatto, però. Beh, l'importante è tanto hai notato una cosa che magari io non ho notato. Quindi. Dice, neanche gli sviluppatori l'hanno notato. Non se ne sono accorti. In realtà gli si sostituiva con uno sprite sbagliato. E niente, quindi sono i combattimenti. Non mi ricordo come funziona questo gioco veramente. Il ventaglio, vedi che carino il ventaglietto, per dire tu vai lì a combattere, tu vai lì a combattere col ventaglietto. Il ventaglietto della Geisha, che è molto attinente con i generali giapponesi, insomma, tutto sommato. E... vabbè, perché poi alla fine è il premio. E poi pure... ah sì, beh, certo, è chiaro. E qui niente, poi... andiamo sempre a parallenzo. Ci sono dei vari multievento, tipo, c'è una parte che non ho mai capito, cioè che tu sei praticamente fermo, davanti a un corridoio, e questo ci ricorda un po' SDI all'inizio. Eccolo, eccolo questo. Questo qua, esatto. E l'hanno ammazzato, mannaggia. Cioè, te tirano in un ciago lì. Ah, non sai cosa ricorda? I bonus, i quadri bonus di Shinobi. Cioè, presente Shinobi? No. Sul Sega Master System. Sì, sì, sì, ok. I bonus stage, ci cioè sono tutti sti Shinobi, appunto, che ti tirano i le stellette. Lì, esatto. E tu devi evitarle, gli devi tirare pure delle stellette, ricorda un po'. No, Shinobi, qui tu le devi parare come se fossi un Jedi. Quindi tu praticamente che fai? Tu stai fermo in mezzo a un corridoio. Sei un Jedi. Tu stai lì fermo in mezzo al corridoio, non neanche te scansi o te provi, no, stai lì fermo, questi ti tirano le cose e tu non è che te ne vai. No, tu devi parare tutto con le stellette, con la spada, e poi non so che succede. Se te ne, scusa, se te ne vai è disonore. È vero, quindi... hai ragione. Quindi sei un coglione. Cioè, se, o muori o sei un disonorato. Non c'hai. Non c'è il grigio. Che culo, che culo. Devo e dire. Qui c'è il minigioco invece che ha la freccia, vedi? Che è sempre. Colpisci i omini che fanno un momento galoppo là sul muro. E tu li prendi con la freccia. Esatto, questo qua, questo è disonorevole per i giapponesi, sta cosa che sta imboscato. Questo è disonorevole proprio il gioco, secondo esatto. me. Anche il gioco, però vabbè. Diciamo, però, diciamo, insomma, qui sono tornati quando hanno finito le idee, ecco, diciamo così, insomma. Però, come vedi, alla fine hanno spaziato in tantissimi... la musichina però la musichetta spacca, musichetta spacca. Ah, guarda l'assalto al tempio qua, al castello, che cazzo è? A Nagoya stanno. Perché, sì sì, è il palazzo del signore, penso, insomma, del... attenzione, vedi come va lui intrepido da solo contro un esercito, credo. Adesso gli viene a tutti, Però vedi, fa tutta la strada, non cammina sulla aiuola, vedi che carino. Mo arriva Simbad. Adesso sta camminando sulla aiuola. Mo arriva Simbad e li mena tutti. Tipo non calpestare i palmipedoni, capito? Cioè lui va lì così. E quindi lui, insomma, da solo ammazza tutto l'esercito, perché è gagliardo. E attenzione, momento, ho trovato. Hai capito, vedi, alla fine, dai. Alla fine un po' detettina ci sta sempre. Al minuto 32, quindi subito. Cioè, questa è proprio. Cioè, bei capelli, sta tipo. Belli capelli, sì. Belli capelli. La chiamavano per quello. a belli capelli. Ma poi perché questa dovrebbe stare mezza nuda, la vera domanda? Sì, esatto. Sapevo che mi avresti salvato. Però si vergogna. Però si nasconde un po' dei tetti. Poi si vergogna perché dice sì, però vabbè. Sì, vabbè, però. Mi hai salvato, però dammi una maglietta, insomma. E, tocca a me pe, quindi... che mamma non c'è, oppure com'era la cosa, tocca a me pe, che mamma non c'è, ma mamma Beppe me tocca, com'era, non mi ricordo, vabbè. Naso. Naso, e qui aspetta, c'è la corsa dei cavalli obliqua, vedi, prima c'era il combattimento obliquo e mo c'è la corsa dei cavalli obliqua, ma non è obliquo, perché questa scelta obliqua è isometrico, è da profondità, no, questo è il mio obliqua, non è isometrico. Non è, vabbè, quindi non. Io sono un po' obliqui questi, io gli volevo i profili obliqui e niente, tutto un po' storto. Io volevo dare un senso isometrico, capito, per da profondità, tu volevi trovare un senso, io t'ho smontato, l'hai smontato senso, subito, hai distrutto il anni e anni di isometricità. Qui c'ha un esercito che gli fanno il culo, perché se questo è il suo, direi che sono pochi in confronto a questi qua gialli. Ma non fa niente. E quindi direi che sta per morire, penso. Ma lui ricorda che è sempre il generale Ichusuoro Adulano. Il generale che ha visto anche un po' di tettina, esatto, quindi questo gli darà la carica. E quindi era tutto un fervorato, capito? Ecco il corridoio. Ecco che il corridoio, piace. Questo il alza sulla Jedi. Spada. Con una... Poi vedi come si muove con una velocità incredibile. Pa. Cioè io non ho capito, ma te tu... Ah, però ha perso sangue, sì, dalla spada, credo, non lo so, da perché lui c'ha la spada e perde sangue. Ma che tu la fai qua? Cioè tu, prova a spiegare sto gameplay. Aspetta, fammi ci pensare. Cioè, più che altro perché lui non cammina. Cioè, aspetta che prima o poi lo piano. Questo l'abbiamo. Perché sta fermo. Cioè, questo... non è che si fa. Ah, aspetta. Ah, vedi l'ingannone. Ah, ho capito. C'è stato l'ingannone. Perché lui non si muove e para? Perché intanto l'amichetto suo sta a circumnavigar tempio. E gli spara da dietro con la freccia. Ho capito, però tu vedi sei... Vedi l'ingannone, vedi? Sì, però tu sei sempre il coglione che sta a piedi stellette in faccia. Ma vedi che sta a fare l'ingannone. Era tutto calcolato. Ma non freghi al generale, non so come si chiama, questo. Matsumoto. Non freghi, non freghi. C'era un perché però, vedi, mi hai chiesto, la risposta c'è stata. Ah, ho capito, vabbè. Io non ho capito comunque il senso del gameplay, cioè tu che fai? Stai lì a prendere... E tu, è tipo quando nei giochi anche moderni dice, devo aprire quella porta. E tu devi resistere 5 minuti che vengono i nemici a menare a te e a quello che deve aprire la porta o ti difende. Cioè, la stessa cosa. Vabbè. Devi resistere fino a che quello faceva il giro del tempio e piallo con la freccia. Cioè, comunque lui sta a far Jedi in mezzo al corridoio. Poi. A far Jedi. Vabbè, quindi poi verso il finale che succede? Non lo so, scritte in continuazione, scritte su scritte. C'è il profilo di Vittoria, vedi? È tutto profili questo gioco. Devo dire che è abbastanza brutto in generale. Spero che non si baci con la tipa, insomma. No, infatti il finale è Vittoria e i titoli di coda, perché non mi pare ci siano cominciate varie. No, si è vista un po' da tetta. Una tettina che è vista anche di profilo, anche quella, se ci fai caso. Sì, vabbè, più la schiena con i capelli, dai, insomma, che già bastava per tanti, Già bastavano i capelli. Per alcuni bastavano pure solo l'occhi. E quindi dopo questo andiamo a Dannamo, non so, mi sono persa The Wings, lo so. Andiamo al giocone, signori. Questo è il giocone, l'unico che io ho giocato nella mia infanzia. Ah sì? Che è il grandissimo gioco che conoscono tutti, It Came. Ah, giusto. From the Desert. Amiga. Eccolo qua. Praticamente il de che è deserto, come potete capire anche dal titolo. Boh, arriva sto coso dall'universo, le formiche giganti. E tu giri per tutta sta zona, sto paese, non so se è un paese. Parli con gente che ti si affaccia pure così a casa, non ho mai capito perché lui non apre la porta, apre mezza porta, li lascia tutti fuori, ci parla così, non li fa entrare dentro casa, non si fida di nessuno. Poi ci sono le miniere, e no. Poi ci stanno, e sta in ospedale, poi ci sta una che l'unica che ha fatto entrare dentro casa, vedi perché non li faceva entrare, poi una formica praticamente, quindi non so se queste formiche si impossessano degli esseri umani, non lo so, perché prima di tutto era in inglese e parlavano un botto in sto gioco, quindi torniamo ai dialoghi tanti in questo gioco, con tutta sta gente che vede, chiacchierano, però come potete vedere tutti i personaggi sono diversi tra di loro, quindi questa è una cosa fatta bene, e ogni zona in cui vai c'è una musica differente, tutte le musichine sono pure belle, e sto gioco c'ha una delle introduzioni più belle dell'epoca, bellissima, soprattutto la versione Amiga, che è ancora proprio più bella a confronto a quella DOS. E quando ero piccola, ripeto, tra il non capire l'inglese e cagarmi sotto quando mi arrivava sta mega formica, ci ho giocato pochissime volte e poi lo toglievo perché avevo paura e ansia, quindi no, chi me lo fa fare, mi mettevo a giocare roba più tranquilla. E quindi io non so mai, questo in verità quasi quasi da una parte vorrei un po' recuperarlo, cioè se proprio devo parlare di Cinemaware, al di fuori che volete che io recuperi Sinbad, ma non credo, questo qui invece tra tutti i loro giochi sarebbe quello più recuperabile a mio avviso. Sinbad lo recupereresti, cioè uno lo recupererebbe proprio per ride, cioè per fare gameplay e reaction, sì, no, per fare gameplay e reaction in tempo reale uno si mette lì a giocare. Allora, diciamo subito che questo è, oltre a essere il classico multi-evento action alla Cinemaware, è forse quello più avventura grafica da un certo punto di vista, perché c'è molta narrazione, molti dialoghi e c'è molta narrativa. E Ritornando a quello che dicevi te prima, mi viene da ridere perché penso questi qua che abitano in questa specie di piccolo borgo minerario dove quelle città istantanee che costruivano intorno a che ne so, a una miniera o un giacimento di oro o cose del genere, dove praticamente la gente andava lì per passare degli anni a lavorare e via dicendo, e però siccome faceva caldo non mettevano il vetro alle finestre e quindi praticamente la gente non è che te bussava o te boccavano direttamente dalla finestra e tu stavi a fare i cazzi tuoi e questo te... magari che stai pure mezzo nudo con sto caldo, no? esatto e c'è questo qua col capoccione che praticamente te si infilava dentro la finestra e tu giustamente ti adiravi perché sono un po' di privacy. Ma poi soprattutto all'inizio la prima persona che ti bussa e tu apri così mezza finestra, mezza porta, quello che è, e uno con un asino che ti porta roba, e sta cosa mi ha fatto un po' ridere. È vero, quello dell'asino, c'è ragione, è quello con l'asino all'inizio. Il primo che proprio te buca in casa, eccolo, è il vecchio con l'asino. Allora, comunque, intro spettacolare. Secondo me questo... adesso la vediamo perché è meravigliosa. Secondo me questo è il gioco forse nel quale hanno investito più soldi. È un gioco che ha una qualità dal punto di vista artistico, sicuramente narrativo, non ha una qualità dal punto di vista del gameplay. Oggi secondo me è ingiocabile un gioco del genere, cioè era difficile, quindi non è recuperabile neanche questo. No, uno ci può anche provare così anche per farsi due risate, però diciamo che secondo me era poco giocabile allora, oggi è secondo me un gioco completamente ingiocabile con le solite meccaniche un po' approssimative de cinema, però è un peccato perché appunto come abbiamo detto l'ispirazione è proprio sui monster movie anni 50, 60, pure qui insomma alla fine anche qui sono un po' ripetitivi su certe cose, però questo era veramente figo. E ribadisco, l'intro su Amiga in un periodo in cui non c'era niente di simile, vedere l'intro a scorrimento con l'asteroide che cade, che poi crea la mutazione che fa diventare le formiche giganti. E ah, qua... quindi non arrivano le formiche dall'universo? No. È l'asteroide che crea le formiche giganti, esatto, con la mutazione. Esatto. Ok. Esatto, così a memoria è quello che mi ricordo io, insomma. Poi, comunque, in generale... e qui c'è sempre questa cosa dell'intro che quando poi ho comprato l'espansione di memoria per l'Amiga 500 poi è apparsa questa meravigliosa parte vocale che insomma altrimenti non si sarebbe sentita. La parte vocale è sempre un po' metallica però si capisce benissimo. Così fa, e adesso la sentiremo perché è proprio bella. Comunque, due curiosità su questa cosa, su questo gioco. Prima di tutto, l'anno scorso è uscito un sequel di altra gente random, credo, molto indipendente, così. Dopo tanti anni hanno fatto questa sorta di sequel di questo gioco qui. E soprattutto c'è il film. Il film, eccolo qua, che deve essere uno di quei film che ti fai veramente tante risate. Sì, io mi sono documentato sul film, perché a quel punto mi ero incuriosito pensando che fosse un film di Uwe Boll, e invece non lo è. Non è, eccolo qua, c'è anche la versione Blu-ray se vuoi, Simone, quasi quasi mo t'ha regalo. No, ma io mi sa che, comunque, It Came From The Desert è un film del 2017, diretto da Marco con la K, a Chialansko, vabbè, forse è un tipo un russo, non capisco, insomma. Boh, è un non lo so, però secondo me uno di quei film vanno visti. È un omaggio ai film dei mostri degli anni 50 e all'omonimo videogioco per Amiga del 1989. La trama parla di due tizi che trovano, che vanno in motocross e che vanno però in moto questi, si vanno in moto, imbattono in un laboratorio dove stanno facendo degli esperimenti, delle mutazioni, delle formiche diventano giganti e si mangiano i cristiani. Quindi viene considerato come una commedia horror. Beh, sì, secondo me grande risate te le fai. Sì, nel senso che secondo me il film per fatte due risate. Esatto, sì. Il film secondo me non si prende sul serio, insomma. Ma forse neanche. No, è quel trash, volutamente trash. Esatto. Per questo, infatti, ho ipotizzato che fosse un film di Uwe Boll, che è quello che prende i videogiochi e ci fa i film brutti. Ci fa i film brutti. Esatto. Quindi direi di vederci insieme questa bellissima introduzione di questo gioco versione Amiga di 40 secondi e metterò il volume un po' più alto perché dovete sentire bene. Avete da sentire. Però ovviamente dopo il duetto Kinder, beh, stiamo quasi a Pasqua, giustamente. Esatto. No, ma più che altro voglio dire, almeno una donazione sul canale Deborah, fatela. È una certa, qualcuno me la farà una pubblicità pure a me, insomma. Va bene, quindi adesso in tipo religioso silenzio, volume leggermente più alto e via. Niente, che io vi dia sto a questa introduzione? Troppo bello. E il deserto che non è cambiato per milioni di anni, poi c'è stata la profezia che non ho capito che dice, perché c'è un momento in cui non si capisce proprio quello che dice, però... No, si capisce the desert. Si capisce tutto il discorso, tranne una parte alla fine che non sono riuscito a capire. E tra l'altro, in realtà, la curiosità è che al di là appunto dei multi evento che vedono una parte strategica vista... Ah no, scusate, questo è il 2, perdonatemi. Sì, tra l'altro c'è una cosa da dire su questa cosa del 2, perché mo ci arrivavo, infatti, che praticamente c'è così una parte strategica vista dall'alto, poi c'è una sorta di shooter in prima persona, che praticamente in prima persona significa che tu muovi la mano fondamentalmente come al solito e ti... farete, scusa questo con l'asino, mi farete. Sì, che poi Barbagianni praticamente lui. Tra l'altro, ecco, cioè, nel senso, sto gioco alla fine anche qui purtroppo ci ha avuto molti limiti in Italia, proprio perché ovviamente la barriera linguistica era veramente importante, cioè qui il gioco non è come magari altri giochi della Cinemaware che comunque te lo potevi giocare uguale. Qui ovviamente se non capivi quello che stavi a fare diventava un po' complicato, poi meccaniche che non so spiegate, diciamo anche approssimative come al solito, e quindi ovviamente il gioco risulta essere bello per i super appassionati, diventa un po' più difficile insomma per quelli che magari sono semplicemente curiosi. Oggi, secondo me, oggi non tanto allora, che lo era pure allora, è veramente un gioco assolutamente ingiocabile. L'unica cosa non ho mai capito, perché non mi sono mai documentato, devo dire la verità, anzi ti devo dire che io neanche lo sapevo che esistesse, è questa cosa del secondo capitolo, che è del 90, quindi l'anno dopo praticamente. Allora questo è dell'89, del 90, sì. Del 90, sì, quindi dall'anno dopo, cioè io non sapevo manco che esistesse questo. Se tu vai a vedere l'intro è la stessa. Infatti ho messo il video e pensavo che fosse quello, esatto. Invece ho detto no, scusate, il secondo, dopo ho visto il nome. No, perché pure io pensavo... L'intro praticamente uguale. È identico, eppure il gioco è uguale. Quindi evidentemente o è un'estensione della storia, o è un DLC, o è un data disk, io non lo so, veramente non sapevo neanche che esistesse, quindi veramente non c'ho niente da dire su questo. Diciamo che ho una domanda un attimo seria. Secondo te, no, il fatto che questo ci abbia una formica qua sullo scaffale, aspetta, non... è perché solo sentiva che sarebbero stati attaccati delle formiche? Oppure un suo piano? Cioè, perché questo dovrebbe avere una formica enorme qua sullo scaffale? Bella domanda. Io so. Vedi? Cioè, questo è un momento spoiler, praticamente ti sa di arriva la formica. Quindi questo qui o in combutta che formiga il protagonista o ha portato Zella o lo sapeva, capisci? Cioè, perché magari dovrebbe essere già una formiga qua? O magari in questo deserto c'erano già delle formiche belle grosse. Ah, può essere che lui lo sapeva già. Magari sì. E qui lo so, perché poi alla fine il film fa riferimento a un laboratorio di esperimenti sulle mutazioni, e quindi ovviamente per il motivo per cui ci sono le formiche giganti. In realtà io so che il gioco originale appunto porta la contaminazione, la porta l'asteroide. Però vabbè, bisognerebbe un infatti po'... questo è un dottore, vedi, che sta studiando i frammenti del meteorite. Vedi? Esatto. Quindi sì, col meteorite, come abbiamo visto anche nell'intro, no? Quindi nel laboratorio Company. Cioè il laboratorio è questo che studia i frammenti del meteorite. Sì, e beh, purtroppo sono passati troppi anni perché avrei potuto... Però è uno di quei giochi che mi sono rimasti talmente impressi solo per un motivo, fondamentalmente. E poi, come dicevi te, in realtà pure a me un po' mi faceva paura. Cioè, nel senso, era... Io mi cagavo sotto, ma era... ero proprio piccola. Ma non è solo il fatto delle formiche, era proprio strana l'atmosfera di tutto il gioco. Un po' inquietante, sì. Se tu però, ci pensi. Ripeto, se tu... ogni... ecco qui la mappa, tu scegli dove andare. Questa è la musichetta, quella dell'intro, che c'è anche nella mappa. Quando tu vai, che ne so, alla radio, e poi vai alle miniere, e poi vai al giornale, ognuno c'ha la sua musichina. Cioè, questa cosa a me piace un sacco. E le musiche poi sono pure belle, capito? Quindi a me sta cosa è piaciuta un sacco. De... questo è artistico, come abbiamo parlato del fatto che fosse artistico anche Defender of the Crown. Insomma, anche questo. Beh, questo è, insomma, forse... eh sì, il livello è quello, qui si vede proprio che c'è un lavoro proprio quasi delle origini, insomma. È un lavoro grafico veramente notevole, una cura incredibile. Diciamo, forse la proporzione delle inquadrature magari non è proprio eccelsa, però c'è pure qua una ricerca abbastanza accurata, sono belli i personaggi, sono belle, come dici te, sono tutti vari, quindi non ci sono grosse ripetizioni, c'è un uso dei colori... molto intelligente, perché appunto, come dicevamo, essendo solo 32 da scegliere, alla fine cerchi di utilizzare una palette che sia più omogenea possibile, no? Devo dire che il gioco è veramente figo. Poi quando c'è, stanno le formiche, comincia a diventare veramente inquietante. E c'è pure la parte strana. Ma poi vedi anche qua, no? Cioè, nel senso, comunque sono i personaggi, vedi, sono fatti bene. Sì. Cioè, vedi quanto era Deformed King of Chicago, dove c'erano ste teste macrocefale, sì, e il corpo tutti uguali. Sì. Ma secondo cioè, me... questi qua sono fatti bene, secondo me. Cioè proprio, vedi, anche questa tipa, vedi, è fatta bene. Ovviamente c'è una donnina mezza nuda sullo sfondo, perché questi, ripeto, sono un po' fissati. Sanno, sì, e... però, cioè, mi sembravano comunque, vedi, non so, deformed, c'ha il collo fatto bene, non è capocciona, c'ha una fisicità umana. C'ha, insomma, c'ha un corpo che si può sedere su una sedia, non come quell'altro. Quindi, secondo me, questo è il punto più alto loro. Sì, qui è indubbiamente, allora, innanzitutto King of Chicago, secondo me, mo, al di là del fatto che c'era la storia, secondo me dal punto di vista tecnico molto approssimativo, si vede che è un gioco fatto velocemente, ispirato però fatto velocemente. Questo invece è un gioco fatto proprio coi crismi, cioè guardate, cioè, tutti i disegni sono estremamente curati, non c'è quasi mai una sbavatura particolare, ci sono comunque le sfumature, ci sono i personaggi, sono dettagliati. Come dicevi, pure l'immagine quella della ragazza di prima, che c'era il quadro della donna in costume, cioè è un dettaglio stupido, però se consideri la risoluzione da allora e comunque la qualità generale di quello che si poteva fare allora, si vede benissimo, è molto dettagliato, no? E quindi c'è una maestria, ragazzi, che... questa c'ha mezzo reggiseno che si vede, sì. Ho detto così, sono così, sono veramente fissati. Ma era l'epoca comunque, cioè, nel comunque senso... questa mi sembra una lumacona, non so a te, questa mi sembra una lumacona senza la chioccia praticamente. Che cosa? Non lo so cosa sia. Sì, no, comunque era pure un po' l'epoca che c'era sta cosa, insomma, molto più sessualizzata di quanto oggi magari si faccia, insomma, per... diciamo c'era meno attenzione, insomma lo si faceva con più disinvoltura, quindi alla fine ci sta questo. Però ecco, devo dire che sto gioco, se fosse stato fatto bene anche nella parte strategica, secondo me sarebbe stato un gioco figo. E poi diventa proprio inquietante, perché poi la formica, due formiche, poi arrivano a Babbi Zeffe queste formiche. Ecco, questa è la parte proprio meno riuscita, perché... cioè, dovevi disparare in capoccia, cioè la formica fa avanti e indria. Cioè, non è che te va addosso e te disintegra, cioè, capito? Che sta fa la passerella, esatto, fa la spirale di moda. Perfetto, quindi che sta a fa? Cioè, tu formica, che cosa stai facendo? Perché non te ne vai? Eccola, l'abbiamo chiamata, vedi? Cazzo, da piccola sotto, ecco, questo mi sarei cagata sotto da piccola. Pensi che è andata via e poi ti fa qua, boom, matto. Penso da piccola ero morta per una cosa simile. Però l'ha ammazzata. E poi vedi, poi c'è la visuale dall'alto. Questa è la parte cambia storia. La visuale sì. Completamente, dove tu sei uno scricciolo e tiri bombe alle formiche così. Sì, questa è diventa un botto, cioè da una poi su 2000. Poi se non mi sbaglio, dopo a un certo punto arrivano pure i carri armati, quindi sì, che fai, ci metti pure i carri armati? Sì, perché poi dopo diventa un'invasione, no? Quindi alla fine che fanno, gli americani non rispondono con le bombe nucleari. Vabbè, certo, voglio dire, se tu ti metti nella situazione, a un certo punto ti arrivano centinaia di formiche giganti, insomma, diciamo, la situazione non è bella. In qualche maniera devi fare, insomma. In qualche modo dovrei eliminare queste formiche. Esatto. Questo è visivamente, secondo me, è quasi il top, insomma, di quello che loro hanno fatto. Anche se secondo me The Wing, quindi l'avventura dopo, forse su alcuni scorci forse sta a un livello ancora superiore. Però c'è sta, insomma, questo è un gioco. Però spigne, perché in 20 minuti di gioco guarda quanti personaggi differenti abbiamo visto. Sì. Quindi secondo me qui spinge anche il fatto che appunto non trovi un personaggio identico all'altro. Io se fossi tutti stato... Tutti stili diversi, tutti caratterizzati, quindi non so. Io se fossi stato in loro ci avrei messo un easter egg col jetpack de Rocket Ranger. Magari è una certa, c'è cioè una formica volante. Magari pure. Questi mo se menano dall'alto adesso, certo. Così è diventata così dall'alto. Comunque la radio si chiama K-Bug, dice Astolfo, ed è arrivato anche in Inspi, sei arrivato in tempo, insomma, ci hai beccato con It Came From The Desert. E non so se questo lo conosci, è praticamente il gioco più famoso loro insieme a Defender of the Crown. È del 90 questo qua. Questo gioco. E sì, niente, quindi questo è il gioco delle formiconi. Ripeto, c'è anche il film se lo volete recuperare. Beh, io... C'è anche un momento qua in ospedale. E sono un po' fissati anche quei momenti ospedali, questi qua della Cinemaware. In tutti i loro giochi c'è il momento ospedale. E sempre anche il momento carrozzina, comunque. Questi i minatori, vedi? Vedi che anche i minatori sono tutti diversi, però, vedi? Che voglio dire? Potevano farli pure tutto uguali. Sì, anche la carnagione, se tu vedi. Anche la carnagione, sì. C'è il dettaglio, vedi, questo è un po' più in carne, vedi? So. Ripeto, secondo me questo gioco. Questo prende appunti mentre questa fa i carte. Non so che stanno a fare. Non so che sta succedendo. Però, ripeto, cioè. Questo secondo me sì, è il loro migliore gioco. Poi ripeto, non in verità ha giocato proprio poco e non capivo niente. Però anche a vederlo oggi mi sembra quello più vario, quello più senti qua pure la musichina al benzinaio, c'è cioè la musichina sul benzinaio, capito? Sì, no, ma tutta la parte artistica e narrativa sicuramente è figa, comunque ci sono molte più cose da fare. E il problema rimane sempre il solito, insomma, la parte del gameplay. Sì, la parte del multievento e insomma tutte le parti più action che sono fatte male, ma in generale comunque. E secondo me oggi, ho detto, per me oggi è troppo difficile un gioco del genere, perché era difficile allora, insomma, vabbè, mi diventa adesso. Io ho trovato molto frustrante quando ci giocavo a sto gioco, poi già mi metteva angoscia, perché comunque mette angoscia, cioè, io ripeto, no, ma me non faccio testo, ero veramente proprio piccola, sono sempre stata caga sotto, quindi non faccio proprio testo. E adesso c'è un momento elicottero, quindi sono arrivati non soltanto, quindi a quanto pare, come dici te, i carri armati, ma anche gli elicotteri che sparano bombe dall'alto. Sì, poi dopo arriva proprio sì, l'artiglieria pesante, insomma. Ci sta, non è che non ci sta, insomma, poi, però, insomma. Questo secondo me è sceso dall'elicottero perché ha detto basta, voglio morire praticamente. Ma comunque sono d'accordo con te, secondo me It Came From The Desert insieme a Defender of the Crown, Rocket Ranger e pure The Wing comunque va considerato, vengono insomma considerati i loro capolavori in generale, insomma. Ecco, questo... Beh, alla fine sono anche i loro giochi più famosi, quindi. Sì, sì, sono anche quelli più curati dal punto di vista proprio... Chissà come mai Sinbad non è diventato uno dei loro giochi più famosi. Guarda, veramente sarebbe da aprire un caso su sta cosa. Torneremo a parlarne comunque, perché... Cioè, qualcosa non mi convince, qualcosa mi lascia perplesso. Qualcosa che non quadra. Esatto. Allora, Astolfo dice, ricordo che nell'ospedale c'era una cassaforte che non riuscivo ad aprire... Quindi l'ospedale di prima che abbiamo visto poco fa. E niente, quindi subito dopo questo c'è il secondo, sempre del 90, sempre dello stesso anno, quindi non so, li hanno sviluppati insieme e l'hanno diviso in due parti. No, perché questo è dell'89 e quello è del 90. Questo 89, ah scusate, questo 89, Simone perdonami, prima ho detto l'altro Simone, ho detto 90, perdonami, è dell'89, questo è del 90, invece il secondo, che si chiama Ant Heads, It Came From The Desert 2. Che a noi... Quindi non so se sono tornate queste formiche, è cascato un altro meteorite, erano morte tutte, non mi è chiaro cosa sia successo. No, soprattutto perché l'introduzione è praticamente la stessa, quindi... E mo sa, vediamo, per vedere se c'è qualche tipo, no, cerca le differenze, capito? No, a meno che non è l'estensione del primo, cioè nel senso magari è una... Sì, nel senso l'hanno diviso in due parti, no? Non lo so. Cerchiamo dei capinati. Ok. The Desert. Ah, vedi? Non è, dice The Desert. Esatto. Not once in the 5 years, quindi sono passati mi sa 5 anni. Ok, e vabbè, allora sì, nessuno si aspettava che ci fosse una seconda regina, quindi dopo 5 anni la regina che è sopravvissuta ha figliato e so cazzi. Però permettimi, vabbè, ha finito di parlare comunque, cioè voglio dire, perché non fai un'altra intro? Ma anche perché poi, cioè, da quello che ha detto, no? Dopo 5 anni una regina formica che è sopravvissuta sa fa danni. Allora che cazzo c'entra il meteorite? Esatto. Era già arrivato 5 anni prima. Vedi che c'è qualcosa che non quadra. Esatto, quindi st'intro non c'ha senso. Cioè, nel senso, rifanne un'altra, magari non c'hai le risorse per rifarla come l'hai fatta prima. Cioè, poi vedi... Cioè, It Came From The Desert è la stessa scritta. E il 2 lo mettono. Però poi hanno aggiunto una stanghetta del 2. E il 2 lo mettono dopo, dai, su, ma che è sta cagata? Su. Secondo me questo l'hanno fatto proprio con due sputi, eh. Cioè, hanno riciclato tutti gli asset. Non lo so, però non però, lo... cioè, ripeto, se sono rincoglioniti da soli perché hanno detto una cosa e poi hanno fatto il meteorite. No. Questo. A meno che meteorite era per ricordarci che era caduto 5 anni prima, che non so. Sì, però voglio dire, tu te confondi anche perché alla fine l'inquadratura è la stessa, il movimento di camera è lo stesso, il coniglietto che si nasconde è lo stesso. Cioè, arriva... Però c'erano più aquile confronto a prima. Ah, beh, allora. E allora sì. Vedi che le inquadrature, cioè le cose, le location sono le stesse. Sono le stesse. Ah, no, aspetta, questo no. Questo prima stava più una crema e invece c'ha, vedi che laboratorio è andato a puttane, vedi? Questo è il laboratorio dove studiavano il meteorite e sto tipo prima stava fuori e stava tranquillino, invece mo c'è pure il ragazzino e è successo qualcosa nel laboratorio, vedi? Non è andata bene la cosa. Sì, però, no, perché viste, secondo me che stavano fatto proprio, visto il successo del primo, dico, famo subito il secondo. E la gente fuori dalla finestra. Aspetta che però questa quando ti entra dentro casa era meglio non farla entrare perché è un po' inquietante, ti diventa una formica. Ah sì? Ah, e poi c'è questo, sembra un po' Steve Martin. Quindi la mutazione non è finita solo sulle formiche, ma le formiche hanno mutato gli uomini. Può essere. Voglio una, la Surfo dice voglio una remastered in 4K di Sinbad solo per le labbra rosse. Hanno detto fanno i remake di tutti i loro giochi. Quindi io spero anche a questo punto in Sinbad. Ah, vedi che figo, questo è il coso, è il drive-in. E stanno guardando l'altro gioco di prima loro, ossia quello lì Rocket Ranger. Vedi come si fanno pubblicità. Beh, se questo è dell'89, allora viene da loro l'idea di cambiare musica ad ogni ambiente. Ah, questo non lo so se sono stati i primi, però a me mi ha colpito che cambia sempre. Sì, ma questo anche nei giochi precedenti, Anche nei giochi precedenti loro? Eh sì. Io sto giro non sono formiche, sono vespe, no, sono sempre formiche. E ieri ho beccato il momento in cui quella entra dentro casa e diventa una formica e tu praticamente per farla tornare umana gli spari alle antenne. Come fai a sapere che gli devi sparare alle antenne per farla tornare umana? Così ipotizzi. Ecco, ad esempio qua Steve Martin pure sta diventando una formica. Perché a quanto pare qui nel secondo gli esseri umani, vedi? Da un momento all'altro ti diventano formica. Morite umani. Ma che brutto. Tu pigli la pistola, gli spari alle antenne, gli fai cadere le antenne e tornano umani. Beh, mi certo. Spieghi questa cosa per favore? No, che te devo spiegare, scusa. Cioè, perché sparando alle antenne tornano umani? Beh, tu con le antenne in teoria le neutralizzi, però che addirittura tornano indietro, che ritorna indietro la mutazione genetica, mi sembra improbabile, insomma. Però questo è un mistero e quindi da una parte vedi, eccola, io ieri ho visto questa che per una volta che fa entrare dentro casa qualcuno gli diventa formica dentro casa, ma poi così da un momento all'altro. E poi dice è diventata una formica ma è ancora carina. Ma che cazzo di discorso è, scusami? Eh beh, adesso ho detto, insomma, molto sessualizzato. Sono arrapati questi. Poi gli spari le antenne e torna come era prima. Anche truccata, vedi? Torna anche il trucco che c'aveva prima. Esatto. Mi hai salvato, mio eroe. E quindi questo è il secondo, che è un more of the same. Però mi sembra una versione uscita peggio. Cioè sta cosa che questi diventano formiche, no? No, mi sembra un po' più una caponata, un po' più una cazzata. Combattimento all'alto, sì, diciamo che secondo me hanno cavalcato molto e in fretta, diciamo, il successo del primo e hanno provato a fare sta cosa, però comunque gli hanno dato almeno una logica al fatto che, insomma, vedi, non combatti in proprio, cioè non ci sono più formiche, gente che mentre gli parli diventa formica. Si formichizzano. Vedi? Sono tutti che diventano formiche. E poi non è che mi sembra così pericolosa sta cosa, eh. Sì, perché nel senso se non gli spari al volo alle antenne t'ammazza in teoria. Ho capito, cioè, gli dice mettono 30 anni. Hanno meno la passerella confronto alla formica di prima. Esatto, che andava avanti e indietro. Ma no, però vedi, mo ci sono le formiche nei campi coltivati. Ci stanno le formiche. C'è un momento anche miniera, vedi, entri. Oddio, questi primi piani sali infarto, davvero? Ah, però pure le formiche gli sparavi alle antenne, quindi ovviamente. Ammazza, vedi come è tutto collegatissimo. Vedi però come vediamo i dettagli stasera. Beh, d'altronde sì, no? Perché prima pensavo, quando l'avevamo visto nel primo, pensavo gli sparava sulla testa, invece non gli sparava sulla testa, gli sparava le antenne. E qui si è visto bene, insomma, che sparava sulla antenne. Quindi probabilmente gli avrà detto quello che stava studiando a questo punto il meteorite, magari. Guarda, ha scoperto il punto debole delle formiche. Probably. E poi c'è il finale buono dove tu sconfiggi ed è uguale a prima. Esatto. E c'è il finale cattivo dove tu vieni sconfitto e si vede la regina che è tutta contenta, ti attaccate umani de merda, vedi così. Beh, pure qui siamo pure sul finale, insomma, diciamo delusione, diciamo Cinemaware. Finale delusione. Che amarezza Cinemaware comunque. Infatti Simone dice Asylum Scansed. Astolfo dice che sfiga, stava per avere una colluttazione a letto con una formica. Mamma mia, non era bello. Ed è arrivata Situation. Buonasera Situation. Si è arrivata che vediamo l'ultimo gioco della Cinemaware. Anche perché si è fatta una certa, come al solito. Vabbè, questo oramai sono abituato. Quello ormai è un classico, il classico dei classici. Ossia un altro gioco famoso loro, del 90. Poi loro hanno chiuso i battenti, abbiamo detto, nel 92. E finiamo con Wings, che sicuramente anche questo qualcuno di voi conoscerà, qualcuno di voi l'avrà giocato, che è lo stesso Mino poi di Rocket League praticamente, no? Cioè, lui. Praticamente. Mi sembra uguale. Sì. No? Però la storia mi sa che è precedente. Sì? Però lo vedi lui da dietro, cioè uguale, dai. Ah sì, può essere, sì, vabbè, un po' ricordo. Cioè, gli manca la camminatina e il jetpack, però, cioè, anche perché a me sembra obiettivamente lui. Questo gioco è tipo, guardate, me lo ricordo però pochissimo. Questo gioco è tipo un simulatore di volo, però di biplani, quelli là, proprio i primi aerei, quelli che tipo degli anni 20, degli anni 30, insomma, adesso non mi ricordo. E, è figo solo perché ci sono, cioè, da quello che mi ricordo io, ci sono alcune sequenze animate della presentazione con una marea di dettagli sullo schermo, tutte le parti bitmap, ovviamente quelle disegnate, ecco. E poi il simulatore, vabbè, grafica 3D, ricorda un po' quello là come era SDI là all'inizio. Insomma, quello vabbè. Lì dello spazio. Eh sì. Io so che questo gioco ha lasciato molto, cioè molti lo considerano, insomma, tra i giochi famosi, popolari di Cinemover, però io veramente non, purtroppo mi dispiace, avrei dovuto magari studiare, però non me lo ricordo proprio, insomma, quindi... Ma io odio i simulatori di volo, mi hanno sempre annoiato, allappato alla grandissima. Però ho visto ieri che è lunghissimo sto gioco. Cioè, guarda, con l'amica Long Play, questo qua, mm-hmm. World of Long Plays, ha dovuto dividerlo in due parti, sono di 4 ore l'una. Boom, 8 ore del gioco. Cioè, è lunghissimo questo. È il gioco più lungo loro in assoluto. Vabbè, perché si vede che le missioni come simulatore di volo... sono tante, devi considerare che alla fine quella è tutta roba che puoi caricare quanto te pare, perché sono solo dati, poi fondamentalmente non è che c'è grafica o spazi di memoria occupati o cose del genere, insomma. Quindi diciamo che i simulatori di volo c'è uno sto vantaggio che tu potevi metterci 50 missioni e vaffanculo, quindi alla fine se hanno risparmiato su quello è ovvio che il gioco è lungo, però insomma si è sempre uscito. Però ho detto, ecco, ci sono delle sequenze e sono veramente, veramente belle, insomma. Però tutto il resto, ho detto, me lo ricordo veramente talmente poco, se non niente, che non ne vale la pena, insomma, mettermi lì a dire cose che non avrebbero... Sì, no, ribadì, questo solo che esiste perché è uno dei loro titoli importanti. L'omino mi ha sempre ricordato quell'altro. La visuale mi ricordo benissimo, insomma, si vedeva lui da dietro che sparava così. Poi ci sono momenti in cui si vede dall'alto. Però è un tipo di gioco proprio che a me non è mai piaciuto. Cioè, tutto ciò che tende al simulatore di volo a me annoia proprio tanto, tanto. Beh, sì, devi essere proprio un appassionato. Però questo forse è uno dei problemi delle software house, che non hanno un genere di base, no? Quindi alla fine c'è, cioè, tipo Lucas che comunque faceva le avventure grafiche. Quando compravi in gioco Lucas, più o meno sapevi di che cosa parlavi. Con Cinemaware, purtroppo, sta cosa non c'è, perché ti poteva capitare It Came From The Desert come ti poteva capitare appunto il simulatore di volo, che magari non te ne fregava niente di giocarci, insomma. Questo è un po', e questo infatti però della parte, dai, anche premiare la varietà a questo punto, no? Sì, però sai, sempre il solito discorso, varietà: quando sei bravo a fare una cosa provi a farne un'altra, ma se non sei bravo a fare manco una cosa, capito? Dice, è meglio che rimani a fare quello. Esatto. Vabbè, vediamoci un attimo l'introduzione anche di Wings. E al di fuori di TV Sports, praticamente abbiamo visto tutti i loro giochi. Esatto. Questo è l'ultimo. Phyllis e Robert Jacob present. 1903. E poi Philip e Robert sono i due cugini che hanno fondato Cinemaware. Chissà perché c'è proprio vengono citati proprio esplicitamente. Ecco, questa... I figli loro che hanno disegnato i pupazzi di Sinbad. Esatto. Guardate l'ombra. L'ombra è carina, sì. Ok, i vari personaggetti che sì, ok, sono tutti più o meno uguali. Però l'aereo con l'ombra sotto, cioè... L'aereo che non è riuscito a volare, niente, è andato male sto volo. Purtroppo. Infatti avevamo pensato di aver introdotto nel mondo l'invenzione che avrebbe potuto, insomma, fare l'impossibile, però al momento non era andata proprio bene. E invece poi è andata, vedi? Sentiamo musica come spigna. Queste marcette de guerra. Eh sì, perché mi sa che l'ambientazione mi sa che è sempre bellica. Eh sì. Sembra un po' quella del ponte sul fiume Kwai. Ah. Beh sì, comunque ispirazione proprio da marcetta militare. Sì. E vabbè. scritte. Infatti anche Situation dice anche a me mallappano i simulatori di volo, sì, io proprio una cosa non ho mai sopportato. Però la musichina è carina, da. Sì. E io i simulatori di volo non li ho mai giocati più di tanto, cioè ho giocato solo un veramente tanto solo un simulatore di volo. Sempre per Amiga, che era F-18, ecco, quello me ce l'ho proprio fatto le chiuse. Soprattutto perché mi ero imparato a tutti i comandi, quindi alla fine mi risultava più facile, insomma. Vedi, qui metti la stamina addirittura, cioè metti le cose, quindi scegli te. È quasi ruolistico sto gioco. Vedi? Ed è questa è l'immagine tipica di sto gioco praticamente. Anche qui a 5 fotogrammi al secondo. Te li dovevi far bastare perché questo poteva fare Amiga. Vabbè. E questo è il gioco praticamente, quindi due palle infinite a mio avviso. Con questi titoli da film muto, hai visto? Questo fa molto film muto, queste scritte. Sì. Vabbè, ma sta cosa delle didascalie, ti ho detto, purtroppo all'epoca si usavano molto e CinemaWare pure ne hanno usato tanto. Perché non è che c'erano tante possibilità di mettersi a fare cazzine rotta di collo. Però che sta a fare, ma no, se io sto mandando avanti. Ah, ok, rabbia. Madonna, che gli ha preso una botta da pazzo. Perché volevo arrivare a questa scena qua. No, ero io che gli facevo girare il collo. Dico, a 2000. Che succede? Ecco, qui poi c'è il momento obliquo sempre. Okay. Gli piace il momento obliquo. Questo è isometrico, non è obliquo, cioè questo è proprio isometrico. Tra l'altro questa cosa ricorda un po' Saxon, non so se ci avete mai giocato alla sala giochi. Che era... Boh, non lo so. Vabbè, questa era pure. E quindi pure sparano questo, a tutti così. Tra tutti i multi-event, insomma, fatti di sto tipo, questa è quasi più carino, anche se è completamente irrealistico il modo in cui si muove l'aereo. Perché... Scatti. Non è che muoveva prima lui il collo poco fa quando ti sei spaventato. Esatto. Stavo di chiaro esorcista, porco Giuda. No, è che qui non è che tu un aereo lo mandi avanti e indietro, insomma, io te voglio dire, nel senso, vabbè. Però si ricorda Saxon, proprio lo ricorda tantissimo. E vabbè, dai, questo il ray tracing obbligo dell'epoca, dice Astolfo. L'aereo va avanti e indietro, esatto, anche lui lo sta dicendo. Vabbè, ma l'aereo andava un po' come gli pareva. Ma sì, ma chi e poi ci sono le pubblicità dei giochi da cellulare con questa che vomita. Non ma so che poi ho vomitato roba verde, tra l'altro, roba tossica. E quindi, cioè, 8 ore di questo che vola e tu lo guardi vola, ma to. Cioè, questo è veramente fasto del male, secondo me. Cioè, It Came From The Desert, cioè una varietà, abbiamo visto infinita. Questo è questo. 8 ore, mamma mia. No, attenzione, no, c'è un altro tipo di modalità. Non è obbligo stavolta. Però si muove avanti e indietro. Verticale. Però si muove sempre avanti e indietro l'aereo, rigorosamente. Sì. E queste immagini, il momento l'aereo francese qua che va così. E però attenzione, perché poi navale è diventato il sottofondo, vedi lo sfondo navale qui. Vabbè, dai, comunque alla fine ci hanno provato a fare varie situazioni, vari contesti che poi secondo me si sono ripetuti decine di volte nelle 8 ore di gioco. Perché... Mamma mia, c'ha 8 ore. Cioè, io di Jim sto sentendo veramente. Oddio. Cioè, 8 ore di questo che guardi che mentre spara e guarda, gira la capoccia. Guarda, a sto punto era meglio quando girava il collo, tipo l'esorcista. Non l'ho mandato veloce, era più divertente. E qui ci sono le altre 4 ore con assalto al treno, anche tipo assalto alla diligenza. Esatto. E niente, quindi altre 4 ore di questo che spara. Matto. Ecco, vedi, alla fine CinemaWare non ha fatto mai un gioco western. Questa è una cosa particolare. Alla fine hanno affrontato. Ma magari era nei loro piani, però poi hanno chiuso bottega. Magari sì, glielo domanderemo quando li intervisteremo. Perché tanto a me mi sono messo in testa che lo devo intervistare. Sempre tutti gli fa domande su Sinbad. Esatto. Diciamo. La maggior parte delle domande è su Sinbad, perché dobbiamo capire. Ci dia delle spiegazioni, lo prego. Per me il nostro obiettivo è capire, esatto. Sinbad, ecco qui il finale. Non si sa che cosa è successo. Il finale è tutte le medaglie d'onore, vedi? Guarda quante medaglie d'onore, mamma e non mia. Si sbaciucchia nessuno, ma è quella la cosa. Basta, cioè dopo sto culo, manco un bacino con qualcuna, niente. Guarda, concludendo, possiamo dire una cosa che secondo me possiamo tranquillamente essere sicuri di non essere smentiti da nessuno. Hanno fatto bene a chiudere, poi alla fine. Hanno fatto bene a fallire. Vedi, la Germania si è arresa, finita la guerra, tutti contenti, ecco il finale. A posto. Vedi la Francia, vive la France, vive la France. Così, a sbafo. The end, con la stessa scritta di It Came From The Desert, se ci fai caso. Esatto, hanno riciclato i font. Che... quelli i font sono quelli, due ne hanno pagati, due ne avevano, due ne hanno usati, e l'altro era quello di Chicago, che era enorme. Esatto. E beh, pure sto The End non è che ci andava tanto lontano. Sarebbe stato bello se fosse... nessun bacio con una francese. Brutta, va a cagare. Brutta storia. Forse è per questo che hanno fallito, eh? Perché non c'era il bacio con una francese? Sì, perché la gente si è ribellata e non ne ha più comprato i giochi dopo. Addirittura Sinbad avrà rimorchiata alla fine, annacci. E niente, c'è il memoriale e finisce così il gioco. Sinbad ha rimorchiato l'orso. Oddio. Il Bigfoot. E quindi ragazzi, finisce qui la storia di Cinemaware. E meno male, perché è mezzanotte e mezza. Pensa se erano fatti altri 20 dei giochi. E niente, quindi che ne pensate di questa, di questi giochi? Un ultimo commento onesto da parte di Simone. Io? Vai, ultimo commento onesto. No, vabbè. Dopo aver visto la carrellata insieme. Io ribadisco che l'importanza dei Cinemaware nella storia di Amiga, e quindi insomma magari anche in parte anche nel mondo dei videogiochi, è stata fondamentale, perché ha portato, diciamo, ha contribuito a far entrare nelle case della gente tanti computer, molto più di quanto ovviamente era successo col Commodore 64, e ci hanno meravigliato. L'effetto wow poi si è andato un po' esaurendo, come abbiamo detto prima, però insomma l'impatto, l'importanza che ci hanno avuto, e anche a livello affettivo per quelli come me che hanno fatto comunque quel tipo di percorso, quindi sono passati nella transizione dal Commodore 64 all'Amiga, insomma, diciamo che mi hanno fatto vivere delle emozioni incredibili, proprio perché non pensavo potesse essere possibile di fare delle sequenze, delle scene come quelle che hanno fatto loro in tanti giochi, non in tutti, perché come abbiamo visto ci sono stati degli alti e dei bassi, però ecco, al di là, voglio dire, dell'aspetto prettamente tecnico del gameplay, che insomma essendo sempre abbastanza carente, Cinemaware secondo me è una delle software house fondamentali, una di quelle pietre miliari nella storia del videogioco, e questo non glielo leverà mai nessuno, insomma. Quindi diciamo che rimane positivo, insomma, il tuo pensiero generale. Su questi sviluppatori. Sì, anche perché. Sì, anche io, dai. Anche perché, scusa, finisco, non dico più niente. Anche perché io sono sempre stato onesto su questo. Cioè, io ho sempre. Non è che dicevo, Cinemaware è bella, City Boy non critica. Cioè, io ho sempre amato Cinemaware nonostante i difetti, che ho sempre riconosciuto anche quando ero più pischello, perché oggettivamente, cioè, non puoi dire che i giochi sono. Ammazza, che bel gioco che mi sono fatto. Cioè, i giochi erano belli per altre ragioni, insomma. Sì, sono d'accordo con te. Quindi, avendo visto, insomma, ieri, avendo conosciuto ieri tanti giochi che non conoscevo proprio, avendo visto stasera con te, ragionandoci insieme, insomma, confermo quello che hai detto tu. Quindi, sono d'accordo sul fatto che fondamentalmente dal punto di vista artistico sono stati importanti e sono stati anche innovativi, tanto, assolutamente. Quindi soprattutto capisco perché sono famosi It Came From The Desert e Defender of the Crown, perché obiettivamente sono il loro punto più alto, secondo me, della loro carriera, soprattutto It Came From The Desert. E quindi, ripeto, mi ha colpito soprattutto le musiche differenti in ogni location di quel gioco lì, e la differenziazione tra tutti i personaggi, insomma, comunque tante location differenti, quindi l'ho trovata quella, It Came From The Deep, è veramente un'avventura più moderna, ok? E quindi nell'insieme comunque sì, mi piacciono, però come dici te magari i gameplay sono un po' così, un po' discutibili, quindi il loro punto debole probabilmente, quindi visivamente e anche insomma la musica, tutto quanto ammirevoli, anche per le idee, tutto quello che vi pare, però punto debole sì, era proprio la giocabilità ultra ripetitiva, i minigiochi infiniti, gli stessi minigiochi cambiando location e ambientazione storica e questo, cioè, però quindi nell'insieme comunque è stata una serata interessante vedere insieme insomma lo sviluppo di questa casa editrice, insomma questo sviluppatore, quindi è stato interessante nell'insieme. Sì, anche perché e comunque, quindi ragazzi, se vi sono piaciuti, ripeto, mo usciranno tutti i remake, quindi preparatevi a prendere Sinbad. Allora, tutti, allora mo usciranno tutti i remake, diamoci piano. Comunque se tu vai a vedere, è giusto anche che il primo gioco è dell'86 e poi ovviamente It Came From The Desert che è dell'89, 90-89, cioè se tu ci pensi, cioè, questi hanno fatto decine di giochi nell'arco veramente di 10 anni praticamente, quindi è incredibile la maturità con la quale poi ovviamente hanno affrontato l'ultima parte della loro carriera, dove rispetto a Defender of the Crown, come dici te, al di là dell'aspetto grafico, hanno fatto proprio un balzo in avanti, insomma, quindi bello, bello, dai, comunque sì, è stato bello anche ricordarlo, ricordare anche cose che ricorda anche lo scantinato, insomma ricorda un po' tutto. Notare la chiusura degli occhi di quelli lì se non li scegli. È vero, grande, grande, è vero. Notevole. E quindi è stato bello. Io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Dalla chat stanno dicendo grazie per la bella serata, buonanotte, buonanotte a tutti i ragazzi. Che ne penso, ignobili, soprattutto Sinbad, dice l'altro Simone. Penso che se oggi continuiamo a giocare anche grazie ai pionieri come CinemaWare, poi ci sono giochi ben e non c'è il resto, forse sta scrivendo il resto, a solfo. E niente, quindi bene, ringrazio tutti, ringrazio Simone di aver partecipato, che lo tengo sempre in ostaggio fino a un'ora tarda. No, ma aspettavo peggio, devo dire la verità, quindi. E perché abbiamo tagliato i TV Sport. Sì, ma non c'era niente da dire. Non c'era niente da dire e niente, quindi sono contenta di aver fatto questo speciale. Nel mentre abbiamo già pensato a un altro torneo, sempre insieme anche a Devil, vediamo insomma se farlo. E poi vediamo insomma altri speciali. E ringrazio soprattutto Sinbad per avermi rovinato a vita l'occhio destro. Grazie Sinbad veramente per questo dono. E quindi, domani e buonanotte a tutti. Ok, quindi andiamo tutti a fare un'attacca all'occhio destro domani. E tutti a mamma mia, veramente mi ha rovinato il gufo vecchia. Maledetta. Non era una vecchia. Vabbè, era il gufo sultano là. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, grazie mille. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.